Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di Callisto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Beh, ti sento in grandissima forma questa sera, ti sento in grande forma. Io capisco da subito se sei in forma oppure no, dal tono della tua voce, da come ti metti a cantare. Durerà poco, non ti faccio più cantare, tra pochi giorni non ti farò più cantare questa canzone, te lo prometto. Sono sul taxi e sì, volevo spiegare al tassista, che ascolta sempre la Zanzara e sa che non è impazzito il cliente improvvisamente. Il tassista è uno dei più grandi sostenitori del governo Monti, delle liberalizzazioni dei taxi, vero? Come no? Ecco. Io spero vivamente. Ecco. Che accada questo. Ecco, vedi, abbiamo, forse è un po' ironico, però questa è la prima notizia del giorno. Che bene, prima notizia della Zanzara, un tassista romano è a favore delle liberalizzazioni dei taxi. Favorevolissimo. Ecco, mandi un messaggio al governo Monti, allora, da qui, dal suo taxi. Ma radiofonico? Sì. Ma non ci riesco, radiofonico non ci riesco. Ma siamo già in diretta con il signor Cruciani. Lo so, ma mi viene in mente solo qualcosa di non radiofonico. C'è un baffa? Ma direi il minimo. Allora, minimo, c'è grande sostegno, certo. C'è grande sostegno. Beh, da parte non penso, del mondo non penso. Taxi, cioè, di a questo tassista, Parenzo, sì. Scusa, di a questo tassista, sì. Mandi sì. Un messaggio chiaro, forte. Mandi un messaggio chiaro, forte, inequivocabile al governo che vorrebbe liberalizzare i taxi. Lo dica in una parola, con parole sue, è facile. Se ci spiega che cosa serve, che vantaggio porta la cittadinanza allo Stato, io sono anche disposto a cambiare. No, altrimenti, altrimenti... No, questo è politichese, questo è detto come lo direbbe Pomicino, no. Questo è Radio 24, la Zanzara, amico mio, gira distruggendo la trasmissione, lo dica con una parola, ma va? Ma va e basta. Ma va, ma va. Ma se manco i tassisti dicono le parolacce, amico mio, siamo ridotti male, siamo ridotti male. I tassisti devono dire le parolacce. Perché? No, perché? Perché devono esprimere il loro dissenso nei confronti delle presunte liberalizzazioni del governo Monti, quando mai le farà sui taxi, perché mi sembra che ci siamo un po' fermati in maniera un po' più, come dire, genuina. Va bene. Siamo qui la Zanzara, come avete sentito, 800 24 00 24, già un primo ospite collegato. Tremonti ha parlato dall'Annunziata ieri, come sai, e ha tirato fuori una proposta assurda, cioè tra tante proposte che si possono fare magari sull'economia eccetera, sì, i giovani devono votare due volte, scheda doppia per i giovani, cioè il voto mio, tuo no perché non siamo più giovani, il voto di non so chi deve valere due volte perché sono giovani. Ma io, come si fa a proporre una roba del genere, Tremonti? Io la settimana prossima presento una proposta di modifica della Costituzione, lei dirà non si farà mai, ma c'è sempre un momento in cui le cose vanno fatte, e dare ai giovani fino a 40 anni due schede, il doppio voto, perché non è più possibile continuare in un sistema bloccato dalla vecchiaia del sistema. Il voto una volta... Avevo capito bene, due schede, di cui una a quelli sotto i 40 anni, dunque rientri anche tu, Parenzo, potresti avere due schede per votare, cioè il tuo voto potrebbe valere doppio del mio, non si capisce perché poi. Ma stava scherzando, forse era ironico. Ma che ironico, dice che presenta una proposta di legge, roba incredibile. Ma come mai? Ma non lo so. Della Valle versus Moretti, questo è stracaut. Ma Della Valle chi? Raffaele o Diego Della Valle? No, Diego Della Valle, come sai. La cosa bizzarra di questo attacco a Mauro Moretti di Ferrovie dello Stato, sì, è che viene fatto da sostanzialmente quello che fra poco diventa un suo concorrente. Cioè, non, vabbè, è un attacco. Comunque, sentiamo Della Valle. Vedere che in Italia il monopolizzatore attuale delle ferrovie, che costringe i cittadini italiani a viaggiare malissimo da sempre, cerchi anche di contribuire a non far arrivare nessun altro che possa far viaggiare bene gli italiani. Questa è una cosa assolutamente assurda. Tenga anche conto che l'amministratore delegato delle Ferrovie, è di lui che parlo, di Moretti, è stipendiato da noi italiani, cioè il cittadino che viaggia male in treno, che non ha un treno che arriva in orario o che deve lamentarsi molto giustamente per il trattamento che ha, è anche quello che paga lo stipendio a questo signore. Beh, diciamo un attacco che ha delle, come dire, no, che è piuttosto interessato, diciamo così, piuttosto interessato. Vabbè, ma bisogna entrare nel merito. Sì, ma quale merito? Se tu fai la concorrenza, poi saranno successe delle cose, sono successe delle cose, sì. È evidente che ti lamenti del monopolista, quello che sta diventando l'ex monopolista, poi che i treni non funzionano non lo può dire Della Valle, cioè lo deve dire qualcun altro, no, il principale concorrente. Bonanni e la manovra fatta dallo zio. Intanto, come sai, la Lega incredibilmente propone la rivolta fiscale contro l'IMU, contro la prossima imposta sulle... Nulla di nuovo, ritorno al passato. Anche se le battaglie fiscali, sono quelle nulla che mi fanno venire. Roba vecchia, vecchia roba della Lega, vecchio. Beh, tutto in realtà, vecchio, morto. In realtà l'IMU è una proposta molto federalista. In ogni caso, appunto. Bonanni e la manovra fatta dallo zio. Sembra fatta da mio zio, che non capisce nulla di economia, di politica e altro. Sembra appunto costruita solamente per fare soldi subito. Va bene, ci sarebbe da sentire anche il signor Passera, a Che Tempo Che Fa, da Fazio, perché questi ministri parlano e chiacchierano moltissimo. Poi devo dirti una cosa: quando si incazza il leader della CGIL io godo come un matto, significa che c'è qualcosa che questo governo potrebbe fare. Quando sento la signora Camusso dire, attaccare frontalmente un'altra donna, che è Elsa Fornero, di un intervento folle del governo supponente, io godo come un matto. Significa che forse si può fare qualcosa, forse. Ma non capisco, non ti piace Passera in televisione? Non ho capito la critica. No, dopo, ne parliamo dopo. Intanto Massimo Calearo, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Dov'è? Abbastanza male, grazie. Come male? Scusa. No, cioè, sono molto influenzato, credo di avere anche un po' di febbre, niente di che passerà. Ma io non pensavo che i grandi capitani di azienda si influenzassero l'influenza. Beh, l'influenza la prendono tutti, anche il signor Calea. La prendono tutti, Lorenzo, porta pazienza. Anzi, fatemi una cortesia, saluto da adesso i colleghi che sono a Roma in Parlamento da domani, perché penso che sarò a letto domani mattina. Ah, per cui lei annuncia domani, non posso. Domani penso che sarà difficile. Domani faccio sì, grazie. Per vostro tramite risparmio tanti sms. Benissimo, allora Calearo annuncia domani non sono in Parlamento, insomma, no, così sono tutti avvertiti. Facciamo subito un'agenzia. Grazie. Prego, grazie, prego. Bravo. Senta, ma ha sentito questo attacco di Della Valle a Moretti? Mi dica qualcosa su Della Valle. Della Valle da una parte è un grande imprenditore, e qui niente da stupirsi, cioè ha un grande marchio, è partito con un'azienda che non era una grande azienda, adesso è un grande marchio, sì, in Italia all'estero, sì. Quindi su questo chapeau, su quello che lui pensa delle ferrovie, che le ferrovie funzionino male, certo, io però credo che da questo governo dovremmo imparare un po' di buon gusto, un po' di toni bassi. Ho molto apprezzato quello che diceva il tassista prima, cioè che è stato corretto e non maleducato, come un certo modo di far politica ci aveva abituato. Credo che da questo governo noi dobbiamo imparare ad essere tutti un po' più educati, un po' più sottotono, un po' più tranquilli. Beh, si è messo l'auricolare per caso, che sentiamo peggio. Mi è partito in automatico, l'ho tolto. Lo tolga, perché sennò non si sente più nulla. No, lei dice dunque che questo governo è più sobrio del precedente. Di tanti altri governi. E anche soprattutto del governo, cioè non ci sono più i ministri che strillano, che urlano come nel precedente governo, questo si può dire. Io credo che sia un insegnamento che dobbiamo prendere tutti, come cittadini e a maggior ragione anche come parlamentari. Credo che l'esempio sia la prima cosa che bisogna fare, quindi io apprezzo molto questo comportamento basso profilo, molto professionale, mi riconosco molto in questo comportamento del ministro Monti e anche del presidente Monti e anche di molti suoi ministri. Senta, ma lei si riconosce dunque più in questo governo che in quello precedente? Ma direi che sì, si può dire. Per fare un'analisi molto seria, sono felice di aver votato il 14 di dicembre la fiducia a Berlusconi, perché sennò adesso staremmo peggio di allora, nel senso che avremmo avuto un governo di personaggi strani, tipo il Terzo Polo, quello che ci andava dietro. Quella foto l'ha vista, no? Governicchio. A questo punto, positivo che Berlusconi abbia fatto spontaneamente o spintaneamente un passo indietro, ed è giusto che ci siano questi signori che governano e che dimostrino che una certa politica, quella che lì da decenni e decenni ha fallito. Ho molto apprezzato il presidente quando l'altro giorno qualcuno lo criticava in Parlamento e gli diceva: signori, ma queste cose qua perché non le avete fatte voi? Dunque lei è più molto più montiano di Berlusconi, diciamo la verità. Senza dubbio. Cioè, questo governo è più serio di quello di Berlusconi, ci ha fatto delle cose. Guardi, questo governo ha dei ministri molto capaci. Ho molto apprezzato la ministra Fornero del lavoro. Sì. L'ho molto apprezzata sia nell'intervista che ha fatto dall'Annunziata, sia per quello che sta dicendo. Ci sono dei movimenti, cominciando dai sindacati e non solo. Ecco, ma mi dia una definizione, adesso c'è la pubblicità e il traffico. Mi dia una definizione flash sulla signora Camusso. Posso dire che seguendo l'indicazione del nuovo governo, no comment. Beh, come no comment? Galeano, lei penso che siamo nella preistoria. Ecco. Archeologia industriale, quello che dice la signora Camusso. È fuori dal tempo, dai luoghi, fuori da tutto. Ma non è l'unica. No, è accompagnata da chi? Accompagnata da molti, anche da Bonanni, perché a un certo punto questi signori non stanno più rappresentando i lavoratori ma rappresentano solo i pensionati. Quindi si dovrebbero fare un esame di coscienza e vedere perché le aziende hanno problemi, perché le aziende pensano di andare all'estero, eccetera eccetera. Dunque eccetera, forza, no? Fornero, avanti tutto sull'articolo 18, senza lei dice. Senza dubbio, ma con molta pragmaticità e senza ideologia. Dall'altra parte vedo molta ideologia, vedo qualcuno che vorrebbe candidarsi la prossima volta in politica. Per esempio? Bonanni vuole fare politica esplicitamente. Vabbè, questo... con quello che sta dicendo mi sembra abbastanza chiaro, evidente. Mentre vedo il ministro Fornero che sta sul pezzo, che sta sugli argomenti senza tanta paura. È questo che ha bisogno il paese. Traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Si è preparato qualche domandina anche Parenzo stasera, pungente credo, o no? Carico a pallettoni. Parenzo, che succede? Eccomi, ma sono venuto qui dagli amici. Sì. Ti dico di stare in silenzio. Sono venuto, è giusto. Sono venuto qui a non vi solo spread. La cultura e la creatività muovono l'economia. Vabbè, per il momento chi se ne frega. Abbiamo qui come nostro ospite Massimo Calearo, deputato ancora di Popolo e Territorio oppure no? Aspetta un attimo, Calearo, ancora di Popolo e Territorio, lei oppure non gliene frega più niente? Credo che io rimango all'interno di questo gruppo perché mi sembra assurdo fare tanti cambiamenti, li ho già fatti in 3 anni, adesso stiamo in lì tranquilli e pacifici e stiamo sul pezzo. C'è lei insieme a Scilipoti? Penso che Scilipoti faccia il gruppo a sé. Non so neanche come si chiama più, insomma, comunque. No, Scilipoti, oltretutto, mentre il gruppo Popolo e Territorio ha appoggiato il governo Monti, Scilipoti fa la sua vita, la fiducia, che vita fa? Cose, insomma, fa la sua vita personale di leader di un partito. Sto seguendo sempre gli insegnamenti del presidente del Consiglio attuale. Vabbè, adesso non faccia così moderato, leader Scilipoti addirittura. Vabbè, quello lo giudicate voi. Ma anche lei lo può giudicare. Io non condivido il suo modo di comportarsi, però non critico, sono scelte personali. Parenzo, mi faceva notare prima che in realtà Calearo è tornato a votare insieme al Partito Democratico, o sbaglio? È vero. Lei prima a un certo punto li chiamava comunisti, a un certo punto, Calearo. Ma guarda, tornerà nel PD, Calearo. Io sto sugli argomenti, non sull'ideologia. Quindi. No, ho capito, però lei a un certo punto li chiamava comunisti, poveretti. Sono convinto di quello che dico. In questo momento noi parlamentari stiamo appoggiando un governo tecnico, che come le dicevo prima apprezzo quello che sta facendo, che poi lo appoggi il terzo polo, lo appoggi il PD, lo appoggi il PDL, lo appoggi tutto, nessun problema, sto guardando sugli argomenti, non sull'ideologia. Ma il PD resta quello che lei ha detto? Il PD è un partito che avrà come tanti altri i suoi problemi a breve, penso che nel 2000 quando si andrà a votare si spaccherà, ci saranno diverse novità da quello che vedo io, perché credo che si formerà un grande centro. Spero che i partiti più estremi se ne stiano fuori dal gioco e quindi staremo a vedere, insomma. Però lei mi dica la verità, la differenza fondamentale, perché un po' me l'ha detta, tra Monti e Berlusconi qual è? Che Berlusconi No, guardi, io credo a una cosa. Quando ho appoggiato il governo Berlusconi era, secondo i miei riferimenti che sono gli imprenditori, il male minore. Ho conosciuto personalmente il presidente Berlusconi ed è una persona che sicuramente ha una marcia in più rispetto a molti altri leader politici. Però io gli ho anche detto che il suo grande errore sono stati certi ministri del suo governo, per esempio? Che erano impresentabili. No, mi faccia fare nomi davanti alla bocca di tutti. Io gli ho anche detto che, per esempio, c'erano delle situazioni come, e l'ho ripetuto anche al ministro Passera, come il commercio estero, che dovevano avere un atteggiamento di attenzione sia del governo. Ho capito, ma chi erano gli impresentabili? Scusi, uno tra tutti, Galeano, un nome. Ce n'era più di qualcuno, lasci perdere. È inutile. Ma qual è il peggior difetto? Il peggior difetto di Berlusconi qual è? Lei che l'ha conosciuto in questi ultimi mesi. Il peggior difetto di Berlusconi è uno di fidarsi troppo degli amici e a volte di non sapersi scegliere gli amici giusti, perché in molti casi io gli ho anche detto manda a casa tutti quelli che sono lì da una vita, che ti stanno intorno, che sembrano dei lacchè più che dei consiglieri, però poi per carità di Dio non ha fatto nulla. Quindi sono scelte sue personali, sai, io più di parlare poi anche le cose personali, le donne ci hanno messo del quelle loro sono, guardi, quelle sono problemi suoi personali. Il suo difetto è che vuole renderlo pubblico, mentre tutti gli altri che lo fanno in silenzio passa tutto sotto silenzio stampa, no? Anche perché credo che non sia la prima volta che succede. Cioè lui ama molto mettere, cioè, a raccontare le sue performance. Probabilmente con la pubblicità eccetera ha fatto anche la sua fortuna, che poi in alcuni casi ha dimostrato che è stata anche la sua sfortuna. Parenzo, dove sei finito? No, a me ha colpito una cosa di quello che ha detto Calearo prima, cioè ha detto che questo sindacato, CGIL, così com'è, è praticamente un sindacato morto, cioè archeologia industriale, possiamo dire così, è un sindacato morto, Calearo? Ma io non sarei così drastico, però dico che tutte le organizzazioni sindacali, quindi prendo dentro anche Confindustria, cioè, si devono ridisegnare, devono rivedere. L'esempio su tutti è la Fiat e quello che è successo con Confindustria Fiat, ma molto di più è il sindacato che rappresenta i lavoratori, perché ormai siamo passati da una situazione di mano d'opera a una situazione di mente d'opera, e quindi l'interlocutore del sindacato è tutta un'altra persona. Senta una cosa, ma la Lega che non vuole la tassa proclama o tenta di proclamare o vorrebbe proclamare lo sciopero fiscale, che non si capisce nemmeno come potrebbe essere articolato, contro l'IMU, che ne pensa lei? Io penso che sicuramente aderirebbe a questa rivolta fiscale? Certo che no, ma c'è, cioè, una puttanata, una stronzata. Sto dicendo che anche la Lega sta cercando di recuperare quello che ha perso, nel senso che è molto più facile protestare che proporre. Quindi la Lega in questo momento è in profonda crisi sul territorio. Voi sapete che abitando a Vicenza conosco abbastanza la realtà della Lega. È un po' disperata, come dice. Sì, sicuramente sì. Gli imprenditori che l'hanno completamente abbandonata, anche se fino alla volta scorsa l'avevano appoggiata al 100%. C'ha degli ottimi amministratori locali, bravissimi. Io abito in un paesino vicino a Vicenza in cui il sindaco è leghista, ma ha tutto dell'antiposizione ideologica di Bossi, di Calderoli, eccetera. Non so se mi spiego. Lo stesso sindaco di Verona, Tosi, è molto... cioè lei sta dicendo che molti amministratori sono bravi, i vertici sono demagogici? No, i vertici sono da mandare a casa, mi spiego. Da mandare a casa come? A calci nel sedere magari? No, quello lasciamo perdere. Io credo che voi prima parlavate non ritrovo di più proposta... il vecchio, non ritrovo più il vecchio Galeano di un tempo, insomma. Qualcosa a Roma imparato. No, Monti là, si è montizzato lei. Mi sono montizzato, però vede, quando Tremonti prima diceva ai giovani diamo il doppio voto. Ma quella è una stupidaggine. Io credo che la verità dovrebbe essere questa. Chi è da 20 anni, 30 anni, diciamo 20, diciamo 15, a Roma, sono quasi tutti i leader del partito, a casa. Senta, i giovani lì. Ma la foto del terzo polo, tutti e tre insieme, Casini, Fini e Rutelli, l'altro giorno, che effetto le ha fatto? Mi ha fatto l'effetto della prima volta, quando ho detto che c'era una volpe, un pollo e un pulcino. La volpe rimane Casini, che è eccezionale, cioè se li gira tutti gli altri. Poi staremo a vedere. Perché, e poi? Credo che... è molto bello dire se adesso andiamo a votare vinciamo noi, bisogna vedere chi ti vota poi alla fine, capito? Quindi... Senta, ma dopo Berlusconi che c'è? Oggi Berlusconi ha detto, per esempio, se mia figlia pensa di fare politica, la diseredo. Ma guardi, a me Berlusconi la settimana scorsa mi diceva sconsiglio a qualsiasi imprenditore di entrare in politica, e probabilmente ha ragione. Io credo però che la marcia in più che ha Berlusconi sugli altri è anche la stessa operazione Alfano. Perché mentre i vari personaggi, da Casini in avanti, tanto per dire l'ultimo, non hanno nessuna intenzione di mollare lo scettro o la sedia, Berlusconi qualcosa ha già detto, no? Andiamo avanti, ma per quel poco che conosco Alfano, una persona preparata, moderata, capace, e gli ho sempre detto stai attento che i nemici li avrai all'interno, perché qui ecco, tutto qua, poi dunque Alfano è uno che ce la può fare, dice lei. Alfano è una persona che sicuramente mastica molto di politica, come tutti, è partito dalla Democrazia Cristiana con i calzoncini corti. Sì. Prego? No, dico, se lei con un PDL targato Alfano completamente nuovo darebbe il suo contributo, come dicono. Oppure dopo, alla fine di questa legislatura, per lei è finita. Allora, io l'ho già detto in maniera forte e chiara: non chiederò a nessuno di ricandidarmi. Molto, molto aperto. Vabbè, questo che vuol dire? Vuol dire che anche l'altra volta giustamente l'ho chiesto, ma me l'ha chiesto loro. Io credo che se dovesse succedere qualcosa di diverso, un nuovo PDL, eccetera, sì, è tutto da ricostruire. Io mi auguro solo che ci sia un grande rinnovamento sulla classe politica. E Montezemolo può essere della partita oppure ormai è bruciato? Non lo so, io credo che a livello così, io se fossi stato Montezemolo sarei sceso in campo prima. Lo so. Adesso i discorsi si sono talmente modificati. È un po' bruciato. Direi che Monti, se riesce a risolvere il problema, e me lo auguro da italiano, dovrebbe permettere a questa classe politica di trentenni a Roma di capire che ora che vadano a casa tutti. Sento, un'ultimissima cosa, ma Monti secondo lei dovrebbe restare in politica? No, perché Monti non deve stare in politica per un motivo. E Passera, lei uno come Passera, lo voterebbe? Certo che sì. Ma voterei anche Monti, ma Monti deve avere la capacità in questo momento di poter veramente fare pulizia, nel senso di fare delle cose che ho capito, molto chiaro. Bene, siamo qui carichi, carichissimi per la Zanzara in questa ultima settimana prima di un piccolissimo, di un brevissimo, caro Parenzo, intervallo di Natale. Bene, andiamo a sentire insieme, dove sei? Guarda, adesso tra poco ti passerò un grande ospite, ma veramente una persona molto importante per Radio 24 e per la Zanzara, vedrai, ne sarai soddisfatto, sarai fiero di me finalmente. Vabbè, cerca di far sentire bene però la tua voce, che sia chiara, che sia chiara e forte. Sì, insomma, sentiamo, per modo di dire. Comunque, andiamo con i titoli del TG3 di questa sera. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Comincia l'iter della manovra al Senato, il via entro Natale, ma è scontro anche sul mille proroghe. Il PDL no a modifiche non concordate. Berlusconi, potrebbe servire una nuova manovra. La Lega lancia l'obiezione fiscale per la tassa sulla casa. Rosi Bindi è ospite del TG3. Pubblico impiego, sciopero contro la manovra. I sindacati e Iniqua pagano sempre i soliti noti, proteste e presidi in tutte le città. Sull'articolo 18, scontro governo CGL, la Camusso non si tocca, è norma di civiltà, la Fornero dispiaciuta e sorpresa, pronti al dialogo. Draghi, l'euro scelta irreversibile, rigore e crescita vanno insieme, Napolitano l'Italia farà la sua parte per difendere la moneta unica. Svolta nell'inchiesta calcio scommesse, arrestato l'ex capitano dell'Atalanta Doni che tenta la fuga, sospetti su partite anche di Serie A. Scompare, stroncato da un infarto, Kim Jong-il, il dittatore della Corea del Nord, l'ultimo stato stalinista del pianeta, gli succederà il figlio. Eccoci, sentiamo Berlusconi oggi in tribunale, scatenato innanzitutto sulla figlia, come dicevamo, su Marina Berlusconi, la diseredo se si candida in politica. Alla fine si candiderà, Sarebbe d'accordo se sua figlia Marina si candidasse? Assolutamente no, la toglierei dalla successione. La toglierei dalla successione addirittura. Però questa, come dire, questa decisione di Berlusconi nel dire questa cosa fa sospettare che magari c'è un'idea da parte di Marina Berlusconi. Chissà. Don Berzè, sapete, coinvolto in tutta la vicenda del San Raffaele, è inutile qui ripetere e ricordare quello che è accaduto, quello che sta accadendo. Cose gravissime. Secondo lì. Berlusconi, naturalmente, Don Berzè è innocente. Don Berzè io l'ho conosciuto come una persona rara, uno straordinario imprenditore, un uomo di fede, non credo proprio che sia implicato in fatti di interesse personale. Non credo sia implicato in fatti di interesse personale. L'importante è che ci creda la magistratura, amico mio. Comunque. Sì, ma non è importante che ci creda la magistratura, è importante che la magistratura faccia bene il suo mestiere. Ma non diciamo delle cose banali, su. Non diciamo delle cose banali. Ma ognuno giudica gli amici. Questa era la testimonianza di affetto di un amico ad un amico, punto. Cioè, poi dopodiché non è che ha detto che i magistrati che indagano, ancora non l'ha detto, che i magistrati che indagano su San Raffaele sono comunisti, però ha detto invece che i magistrati di magistratura democratica limita la sovranità popolare, ma questa è una vecchia storia. La sovranità è gestita da magistratura democratica. È una cosa non democratica. Ma quello che è una situazione malsana, patologica. È tornato a parlare Berlusconi, questo è il punto. È tornato a parlare dal Milan ai magistrati, a Marina Berlusconi, a Don Berzè, ogni giorno ce n'è una. Passera, che secondo una vulgata sarebbe molto vicino a Berlusconi, secondo un'interpretazione, sostiene che è intollerabile il regalo alle frequenze da Fazio. Sentiamo. Di fronte a una situazione di richiesta di sacrifici forti a tutti gli italiani, pensare che un bene raro e comunque prezioso e pubblico soprattutto pubblico, bene pubblico, certo, bene dello Stato, possa essere dato gratuitamente è probabilmente non tollerabile. Quindi non lo tolleriamo. E quindi verosimilmente non lo tollereremo. Verosimilmente non lo tollereremo. Perché anche Passera è dubbioso sul fatto che si possano ricavare tanti denari dalla vicenda delle frequenze. Qui invece va fatta una riflessione rapidissima, ma molto nessuna politica. Nessuna riflessione. Sì, perché chissà come mai il ministro Passera è uscito sulla questione delle frequenze, questione anche giusta. Che è stata posta da diversi partiti, eccetera. Sì, proprio all'indomani delle critiche di Berlusconi al governo Monti, anche questo è il timing, è interessante. Ma non c'è stata nessuna critica. La sostanza è che il governo è che, come puoi avere percepito dalle parole di Alfano, sono un po', ci sono due piani, quello naturalmente politico, che è quello di dire al proprio elettorato vi stanno stangando, questo governo vi sta stangando, e l'altro invece che è quello della realtà, e cioè l'appoggio del PDL al governo Monti. Ma sentiamo un po' di leghismo. La depressione di Maroni, prima mi chiamavano per i morti, adesso mia madre per la rassegna stampa. Finché ho fatto il ministro, tra le 6 e le 7 del mattino ricevevo sempre 2-3 telefonate, il capo della polizia, il comandante dei carabinieri, il capo di gabinetto che mi diceva: ministro, allora questa notte ne hanno ammazzati 3 di qui, 4 incidenti di là. Capite che alzarsi tutte le mattine con queste telefonate non è un bel vivere. Adesso vi assicuro che è tutta un'altra cosa. Al massimo mi chiama la mia mamma per farmi la rassegna stampa, però è tutta un'altra cosa. Io credo che invece Maroni rimpianga le telefonate della mattina del generale dei carabinieri, del comandante della guardia di finanza, eccetera. La adrenalina di quei giorni, ministro! Non ce la venga a raccontare, ce la racconti giusta, su! Dai! Avanti! L'Europa ha mandato il massone di turno, secondo Maroni, la massoneria, che ci è stata evocata anche dal signor Genchi venerdì scorso, dal signor Genchi qui alla Zanzara, Palazzo Giustiniani. Vogliamo un'Europa delle regioni, dei popoli. Sarà l'Europa delle regioni, cioè l'Europa della Padania. Sarà l'Europa dove i popoli decidono come e da chi farsi governare, loro, non qualche massone in giro per il mondo che prende il professore di turno e lo manda lì a dire che cosa dobbiamo fare. E poi un altro leghista, Alessandri, che dice: la supposta di Maroni che canta Jingle Bell. Era una supposta Monti che sta arrivando Monti in maniera inopinata prima di Natale, con Jingle Bell sotto l'albero di Natale. Ci troveremo tutti in qualche modo colpiti in maniera pesantissima. Naturalmente era la supposta Monti, non la supposta Maroni. E poi io ho già il primo ospite qui al mio fianco. Chi è? Chi è? Io chi è? È la signora Concia. Ho la mia bocca vicino alla sua per via del microfono. Però se il rossetto non vi preoccupate, non lo bacio. Buonasera. Buonasera signora Concia, buonasera, come sta? Che cosa sta, che cosa fa accanto a Parenzo? Siamo chiusi dentro uno sgabuzzino. È tutto vero. Ma chi ha portato dentro uno sgabuzzino? Non mi devo preoccupare? No, no, no, beh, adesso voglio dire, sulle, sull'etero. Le mani, eh? No, no. Non alzare le mani. Tengo le mani in tasca, Cruciani. Ma no, ma poi a te, vabbè, lasciamo perdere, va, però si va. Cambiamo discorso. Scusi, vogliamo dire una parola definitiva sul signor Scilipoti? Onorevole Concia, no, diciamo una parola definitiva. No, come guarda, no? Non sprechiamo il fiato. No, guarda. Vabbè, una parola definitiva su una parola. Appunto. No, vabbè, una parola definitiva sulle sortite omofobe o comunque lui ha sentito, no? Lo dico in romano, è un poveraccio. Un poveraccio addirittura. Sì. Vabbè, ma ognuno, uno potrebbe dire, ognuno ha le sue idee sul sesso, sugli uomini, sulle donne. Punto, ecco, le idee. No, una parola definitiva la vorrei dire. Sì. Io non ho mai detto, se l'ha inventato ovviamente Klaus Davi, sì, che io sono orgogliosa di essere lesbica, perché fa abbastanza ridere, sono sufficientemente intelligente da non dire una stupidaggine. Come lei è orgoglioso di essere no, ma chi l'ha detto? Ma siete matti? Ma io non sono affatto orgoglioso di essere non me ne frega, non me ne frega niente di dire sono orgoglioso o non sono orgoglioso. Sono quello che sono, io avrò detto nella mia vita. Beh, qualche volta l'avrà detto, qualche volta l'avrà detto. No, ma no, non fa parte del mio linguaggio, non è neanche il mio modo di vivere questa la mia omosessualità. Io sono serena, questo sicuro. Questo sicuramente. Allora, Klaus Davi ha aizzato quel signore lì. Come fosse un cane, come l'ha aizzato? Vabbè, sì, come un cane, i cani si aizzano. Sì, vabbè, l'ha aizzato. Come questo... come un cane, scusi, no, adesso come no, un cane. Io non dico come un cane, è il suo collega. Sì, sono io che ho detto che è stato aizzato. Aizzato, perché è una stupidaggine, no? Poi ha fatto quel paragone con i ladri, cioè è sì. Quello è il paragone con i ladri. Però il paragone con i ladri ha detto qualcuno. Di tutti i colori. Sono malata, sono ladra. Ma in modo definitivo, Concia, possiamo dire meglio lesbica che Scilipoti, diciamolo. Beh, quello oggettivamente ho detto. Diciamolo con orgoglio. Oggettivamente, siamo un dato di realtà. Ma secondo lei il signor Scilipoti ha una vita sessuale? Ma che ne so, penso di sì. Mamma mia, era capricciante quello che hai detto. Ma non lo so, ma penso, immagino di sì. Se lo immagina nell'intimità, no, Scilipoti. No, no, le mie fantasie sessuali, diciamo, non arrivano a tanta perversione, ecco. Beh, addirittura, che sarà mai. Però comunque io rivendico il fatto. Immagino, scusi, però, al di là del paragone con i ladri, io rivendico il fatto che anche Mimmo Scilipoti, che è diventato il simbolo, insomma, un po' del cialtronismo della politica, grazie. possa, grazie anche a noi, per carità, no, possa. No, non ho detto grazie a voi, no, è lei che lo dice. No, vabbè, grazie anche a noi, ce ne siamo, come dire, ce ne siamo abbeverati. Allora, vabbè, ma io non mica lo... No, io lo rivendico. Allora, con orgoglio, come la Santa Anche. Lo rivendico con orgoglio, esattamente. Possa dire, per me, come dire, l'unione tra due persone dello stesso sesso mi fa schifo. Cioè, non voglio mai vedere davanti a me... Cioè, uno lo può anche dire, qual è il problema? Cioè, è una cosa molto volgare, una cosa brutta che alimenta, comunque per carità, nel nostro paese, io figuriamoci se non lo può dire. Io penso che sia una cosa che alimenta l'odio, come dire che le persone di un altro colore della pelle puzzano. Sì. Senta, ma secondo lei queste cose andrebbero punite, cioè frasi di questo tipo? Sì. Beh, io penso, perché siano, cioè, quelle cose che ha pronunciato che alimentano Scilipoti. L'odio. In altri paesi questo accade, dopodiché, sa, io mi sarei, diciamo, come dire, per senso della realtà, accontentata di punire chi usa violenza verso un altro omosessuale. Ma anche le frasi tipo quelle che ha pronunciato Scilipoti possono essere accostate alla violenza? Ma beh, sì, guardi, io voglio dire una cosa molto semplice, sì. Che è una cosa che noi ci siamo dimenticati, no, in Italia, sì. È che una persona quando è nelle istituzioni non parla a titolo personale, questo io voglio... Beh, come non parla a titolo personale? Che vuol dire? No, ma che è un membro del Parlamento, il Presidente del Paese. Beh, ho capito, uno può esprimere le proprie idee a titolo personale, le proprie idee si esprimono a titolo personale, mica a titolo di qualcun altro. No, un ruolo pubblico, quello che dice è un ruolo pubblico. Non è così, su. È quello che dico. Il problema è che noi abbiamo dimenticato questa cosa semplice, cioè il rispetto. Cioè lei lo porterebbe in tribunale per quello che ha detto? Se ci fosse una legge, lei lo porterebbe in tribunale per quello che ha detto, Scilipoti? Se ci fosse una legge che punisce chi incita all'odio, lì bisogna vedere, insomma, diciamo, bisogna vedere. Incitare all'odio significa dire che vorrei ammazzarlo, che devono. Ma scusa, morire. Beh, che sono, lei l'ha paragonata a una ladra. Quello sa, cioè, ci sono gli estremi per una querela, ci sono, perché appunto c'è il paragone con una ladra, dopodiché c'è la pubblicità, e no, quello non c'è dubbio. Borsa, grazie. Le grandi inchieste di Parenzo. No, aspetta, non è finita, solo all'inizio. Abbiamo gli ascoltatori, ti prego. Ma un attimo, che ho al mio fianco un grande ospite che ci dà notizia anche. Ma di che cosa stiamo parlando? Avanti col prossimo. La radio della Confindustria, ci tengo a ripeterlo, e saluto e ringrazio la signora Marcegaglia della grande opportunità che da un anno e mezzo mi ha dato, Sebastiano Cruciani. Ma cosa c'entra? Ma sei pazzo? Che stai dicendo? No, sei impazzito? Che stai ringrazio dicendo? Ringrazio sommessamente con sobrietà. Ti passo ai microfoni della Zanzara in esclusiva, sì, un grande produttore televisivo. Chi è? Signori, alla Zanzara uno dei più grandi amici del signor Minoli, il signor Luca Iosi. Ciao Luca. Ecco, aspetta. Ma che state facendo? Buonasera. Ma state facendo un casino tremendo. Dove vi trovate? Io non so nemmeno dove siete, al cocktail di qualcosa, alla presentazione di qualche libro, di qualche evento natalizio. Dove siete? Siamo a pochi metri dal Circo Massimo. Ah, ecco, appunto. Appunto. Quindi è una zona di corse a pochi metri da altre battaglie, insomma. E senta, uno come lei, che nel passato è stato molto vicino alla politica, quella vera, insomma, no? Sì. Non quella di adesso, della Seconda Repubblica, una politica, insomma, in tono minore. Come vede invece i governi tecnici? Sono molto curioso. Luca Iosi, insomma, uno che è stato molto vicino a Bettino Craxi tanto tempo, come vede un governo tecnico, che è il contrario, immagino, di quello che poteva piacere a uno come Craxi? Che sono tecnici, quindi hanno anche la possibilità di sbagliare tecnicamente. Ah, ecco, appunto. È un vantaggio questo qua. Sì. Allora, l'altro giorno Antonio Martino mi ha detto una frase che mi ha colpito. Ha ripreso quello che ha detto nel 63 Togliatti. Adesso la faccio difficile, no? Togliatti disse: i governi tecnici / amministrativi sono i peggiori governi politici che ci possano essere. Condivide il signor Iosi? Beh, veramente ne aveva parlato in maniera più precisa ed efficace Croce. Addirittura? Prima. Beh, sì, il saggio più importante sulla tecnocrazia è di Benedetto Croce, e il punto è semplicemente sulla cosiddetta indipendenza dei tecnici, perché se uno è tecnico e se è davvero bravo, si suppone che abbia lavorato per i migliori. Se ha lavorato per i migliori, si suppone che quando andrà al governo poi cercherà anche di pensare al suo dopo, perché la vita continua. E quindi la domanda è: ma se la parola tecnico deve essere sinonimo di indipendenza, è proprio così vero che i tecnici sono staccati da qualunque dimensione di contatto col mondo reale? Direi di no, perché se non fossero i migliori non avrebbero lavorato per i più grandi, e quindi il cane si mangia la coda. Un discorso complicatissimo ma affascinante. Grazie a Luca Iosi. Ridai il telefono a quel personaggio bizzarro che si chiama Parenzo, e io andrei con Ettore da Milano. Buonasera, 800 24 00 24. Ettore? Cruciale, buonasera. Buonasera, Ettore, dica. Il tassista. Sì, Ettore il tassista. Ettore, un tassista. Io vorrei parlare col mio amico Parenzo, che lo conosco perfettamente. Parenzo? E chiedergli come mai che lui è così favorevole alla liberalizzazione dei taxi. Io sono per liberalizzare tutto, amico mio, ma c'è un ordine professionale. Che vantaggi ha il governo a liberalizzare i taxi quando io ho pagato la licenza 160.000 euro? Mi passi Parenzo, per favore. Sono qui, io sono per liberalizzare tutti gli ordini professionali, a partire dal mio ordine, al quale sono iscritto da 12 anni a questa parte. Parenzo, scusami, io sono Ettore e sono venuto alla tua trasmissione per il processo di Garlasco, ti ricordi? Oh, Ettore, amico mio, come sta? Grande tassista di Milano, un abbraccio fortissimo, però bisogna liberalizzare comunque. Eh no, ma mi devi spiegare, Parenzo, mi devi spiegare che vantaggi ha il governo a liberalizzare il... No, ma non è che il governo, in teoria... Le spiego, voi dovete essere indennizzati per l'investimento che avete fatto sulla licenza. Io ho pagato licenza 160.000 euro. Sì, ma è un sistema perverso, è sbagliato pagare per una licenza, è sbagliato in principio, dunque bisogna andare al di là di questo principio qua, al di là di questa storia della... Lo so che è sempre stato sbagliato, ma perché ce l'hanno permesso? No, ma lei ha ragione, Ettore, infatti il problema della licenza, come giustamente scriveva qualche giorno fa Mughini su Libero, è un problema concreto, perché evidentemente la gente che ha investito dei soldi deve... Ma ci sono dei ragazzi, dei cruciani, che sì, un mese fa hanno investito 200.000 euro, questi qua si suicidano. No, ma lei ha ragione, non può essere azzerato il valore di questa licenza, lei ha perfettamente ragione, Ettore, però bisogna andare oltre questo principio. Soprattutto bisogna che in generale il servizio dei taxi sia orientato non alla protezione, tra virgolette, perché poi non è solo questo, protezione di chi lavora nel taxi, ma sia orientato un po' di più verso il servizio, verso il fatto che i taxi servono anche a chi ci lavora, ma servono soprattutto a chi li prende. Un abbraccio, Ettore, non si arrabbi troppo con Parenzo, anzi si arrabbi quanto vuole, ma non è il caso, non siamo contro di voi. Samuele da Treviso, buonasera. Sì, buonasera Cuciani. Dica. Senta, guardi, io sarei abbastanza in difficoltà a dare un voto, quindi a darne due non le dico sarebbe abbastanza... Ah, per la proposta di Tremonti, dice lei, quella di dare esatto, due voti ai giovani, per carità. Guardi, volevo parlarle dell'atteggiamento dei sindacati in seguito alle parole della Fornero. Sì. Mi sembra assurdo che non si voglia cambiare, dico, sono abbastanza attento al mercato del lavoro perché è uno dei miei pensieri. Vorrei vedere anche un fronte politico comune, ma bravo Samuele, purtroppo non ci sarà, questa è la mia previsione, non ci sarà. Guardi, io le dico che se Passera fondasse un partito come ha paventato ieri, quasi quasi il mio voto glielo do. Non ha paventato ieri, ha detto che gli piacerebbe fare politica, diciamo la verità. Comunque, insomma, certamente è una persona sicuramente valida e almeno le dico, io e quelli della mia generazione siamo abbastanza stanchi delle persone che ormai non ci rappresentano neanche più. Grazie Samuele. Luigi da Napoli, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Il mio intervento è un pochettino contromano, diciamo così. Contromano è un po' strano, insomma, contromano, insomma, controcorrente, dice lei. Controcorrente, vabbè, e quale sarebbe? Stipendi dei parlamentari, dei vitalizi. Sì. La mia proposta è questa: triplicare gli stipendi dei parlamentari, sfoltirne il numero. Ma perché triplicare? Che bisogno c'è di triplicare? Ho capito, ma è una provocazione inutile. Triplicare mi sembra una follia. È una provocazione, guardi Cruciani, vi spiego perché. Perché secondo il mio punto di vista a Roma chi comanda sono 60-70 onorevoli alla Camera e così anche al Senato. Tutti gli altri fanno numero. Fanno numero e l'abbiamo visto anche negli ultimi servizi delle Iene, quando in questo momento di crisi così particolare si va a chiedere a un onorevole che cos'è lo spread e lui rimane incantato davanti alla telecamera, cioè allucinante. Mio nonno magari non può sapere cos'è lo spread, ma in un momento del genere un onorevole che non sa che cos'è lo spread. Sì, ma va tutto bene, allora sul dimezzamento sono d'accordo con lei, ma perché lei vuole triplicare lo stipendio? Cioè lo stesso stipendio, forse più basso, e forse più basso, però 400 deputati in tutto. No, guardi, gli onorevoli che stanno lì a Roma, che sono 60 che comandano, vanno lì e comunque si vanno a spartire la torta, perché sono quei 60 che vanno lì e vanno a comandare, no? Ma che vuol dire 60-70? Perché 60-70? Allora, se noi gli leviamo l'immunità e gli diciamo: voi avete il triplo di quello che guadagnate adesso, andate lì e andate a fare gli interessi degli italiani. Dovete fare, vabbè, ma non è una cosa che non ha senso triplicarlo. Comunque la prendo come una provocazione. Pagati bene, diciamo, però dimezzati. Grazie. Carlo da Foggia, buonasera. Carlo da Foggia è andato già via. Francesco da Salerno. Pronto? Sì, dica. Senta, io avrei una... Mi sente? La sento, dica. Allora, io dicevo, una proposta che è una provocazione, ma anche no. Secondo me, come dimostrano anche gli spread di questi giorni, eccetera, la manovra Monti e quello che può fare il governo è tutto bene, va bene, sono d'accordo, però non basta. Allora, a me non mi va bene per niente tutta la stangata fiscale, per quello che mi riguarda. Diciamo, poi a lei va bene, non mi va bene, ma diciamo, non solo non ci va bene, ma credo che non basti neanche. Quello che secondo me me è quello che dobbiamo fare. In sintesi suprema, direi, sintesi suprema. In sintesi massima dovremmo fare come il Giappone, che praticamente dove i giapponesi hanno in mano il debito giapponese, cioè lo so, ma è una proposta che è già stata fatta nei mesi scorsi. Però se noi ci rivolgiamo a quei, a quel decimo d'Italia che dicono che può spendere, fare una specie di raccolta e acquistare questo debito pubblico in modo tale che ci sottraiamo. Francesco, è una proposta vecchia dei mesi scorsi, quando era esplosa la vicenda dello spread, insomma, nei giorni della caduta del governo Berlusconi. Certo. Non lo so, le cose potrebbero anche complicarsi dopo, non è il caso di parlarne questa sera. Lei ripropone questa cosa, gli italiani si comprino il debito pubblico. Siamo qui 800 24 0024, caro Parenzo. Altro ospite al volo? Un attimo, abbiamo un ospite. Io non sapevo che tu avessi tutti questi ospiti. Sono pieno di ospiti, c'è il signor Boccia, c'è il signor Abate, siamo pieni di ospiti, sono qui tutti che aspettano di parlare alla Zanzara. Boccia ha appena detto, adesso ad esempio mi diceva mollerò il governo Monti, l'ha appena dichiarato, no? è qua. Beh, ecco. Questo sarebbe una notizia, ma naturalmente non è vero, come sa Boccia. Devo confessarle che il tasso alcolico è fuori controllo, quindi solo un ubriaco potrebbe mollare Monti, giusto? Esatto. Ah, solo un ubriaco potrebbe mollare Monti, cioè chi in questo momento si oppone a Monti è mezzo ubriaco, secondo lei? Certo, guardi che l'alternativa a Monti è lo sfascio, il suicidio collettivo, il suicidio di massa. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Io mi oppongo a questa cosa, perché il Cruciani, suicidio di massa? Perché noi viviamo da 20 anni al di sopra delle nostre possibilità. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Ogni mese ci prestano soldi, esattamente come capita ai commercianti che hanno fatto un sacco di debiti, hanno comprato la casa, la villa, la barca e non hanno detto alla moglie che i soldi non ce li avevano, li prendono in prestito dalle banche. Benissimo. Gli italiani hanno fatto la stessa cosa, li abbiamo presi in prestito in giro per il mondo, sì. Una parte le abbiamo prestate a noi stessi italiani, quindi le abbiamo prestate a noi stessi, e oltre il 44% ci è stata prestata da americani. Ho capito, ma se lei lo sapeva, francesi, perché non si è preparato a fare l'alternativa a Berlusconi invece di piazzare lì un tecnico? Scusi, ma benissimo quello che dice, sono d'accordo con lei. Perché in qualsiasi momento, ora, se andassimo al voto, voi non sapreste con chi allearvi, diciamo la verità. No, guardi, quello è il problema minore, perché non ci sarebbe neanche il tempo di pensare alle alleanze, perché ci sarebbe il crack e quindi io e lei non parleremo di alleanze, ma di dove andare la sera. Senta, a sbarcare il lunario. Con chi sta lei, con la Fornero o con la Camusso? Però adesso non mi faccia il terzista, e lei deve dire, in questa diatriba tra due donne importanti in questo momento, il segretario della CGIL che dice un'aggressione, non me l'aspettavo da parte di una donna, la signora Fornero che dice l'articolo 18 non è un tabù, Francesco Boccia, Partito Democratico, uno dei giovani emergenti, bravo, io condivido quasi tutto quello che dice, allora lei mi deve dire: io sto con la Fornero oppure sto con la Camusso? Guardi, io sto con l'apertura dei mercati chiusi, tutti i mercati italiani chiusi, tutti gli oligopoli vanno aperti un minuto dopo. Guardi, ma che c'entra l'oligopolio? Che c'è? Se sto parlando lei con la Fornero o con la Camusso, mi parla dell'oligopolio. Glielo spiego. Se lei oggi mi dice è prioritario il tema del dibattito sull'articolo 18, le dico no, sono prioritarie le liberalizzazioni. Un minuto dopo aver aperto tutti i mercati, vabbè, ma che i temi che pone la Fornero sono temi che meritano. Ma questo è benaltrismo. Questo è benaltrismo. No, non è benaltrismo. È molto, è benaltrismo alla grandissima. Guardi che se non si fa così, ci tenevamo, mi scusi, Sacconi diceva le stesse cose. Ma Sacconi dice la stessa cosa che dice lei, guardi, se vai, a parte che adesso votate lo stesso governo e siete insieme, punto. Primo. Non mi pare che Sacconi sia tra gli entusiasti. No, non è entusiasta, certamente non è entusiasta, non c'è dubbio. Però, insomma, a lei converrà con me che bisogna aprire tutti i mercati. Ma sì, ma sono d'accordo, però lei mi sta rispondendo in maniera paraguru. Lei mi deve dire: io sto tra la Fornero e la Camusso, io sono più vicino alla Fornero. Ma perché non me lo vuole dire? Io lo so che è così. Non mi faccia il quello che così traccheggia. Io sto ma con no, la Fornero. No, perché guardi, pongono entrambe due problemi. Ma che problemi pone la signora Camusso, no, che si oppone a tutto? Ma su, no, ma la signora Camusso pone un problema banale di difesa e di tutela di alcuni lavoratori, ecco, dimenticando altri 12 milioni di italiani, perché gli 8 milioni che lavorano nelle piccolissime imprese non sono oggetto delle coperture della Camusso. Bene, ma lo vede che lei lo vede che lei lo dice? No, ma lo dico sì, però guardi, siccome questo paese lo riformiamo facendo la coesione sociale un valore, non sì. contro qualcuno, io diciamo sono obbligato a portarla, lei che invece avanti Fornero, no, dica avanti Fornero. No, abbiamo due ruoli diversi. Io dico Cruciani, avanti, non avanti Fornero. Vabbè, avanti Cruciani, io Cruciani. Che c'entri, io faccio Cruciani, giornalista. Se Cruciani no, però lei fa il giornalista, diciamo, che spinge al cambiamento attraverso il conflitto. Io voglio il cambiamento attraverso l'unità. Attraverso, ma non si può fare, lei lo sa benissimo che non si può. Se non c'è uno scontro forte, vero? E questo è uno scontro vero, però, forte, in cui uno come lei... Posso dirle una cosa, sì. L'abbiamo allungata o no l'età pensionabile? Sì, quella è vera, quella è vera. E l'abbiamo fatta con la coesione sociale. Ma la dovete fare voi, no il governo tecnico, voi invece non manco voi avete non il coraggio di farlo. Non avevamo i numeri noi per farlo. Vabbè, sta con la Fornero o no? Chiede, sto con la Fornero, mi dica, sto con la Fornero. No, io dico che Camusso e Fornero, pongono problemi seri, prima dei loro problemi ci sono le liberalizzazioni. Un minuto dopo starò con la Fornero. Un minuto dopo sto con la Fornero, vabbè, lei non me lo vuole dire, sto con la prima le liberalizzazioni e poi sia la Fornero, ma che vuol dire? Cioè non vuol dire niente, prima quella e poi l'altro, c'è sempre una cosa che bisogna fare prima, lei lo sa benissimo. No, bisogna aprire i mercati, lei se in questo momento... La riforma del mercato del lavoro non serve a niente perché i mercati sono chiusi. Ma in linea di massima è vero, si può toccare l'articolo 18? Mi dica la verità, si deve toccare o no? In linea di... aperto i mercati, ma lasci perdere i mercati, si deve toccare o no in generale? Ma ai 12 milioni di italiani che non vivono in imprese che regolano il rapporto con l'articolo 18, secondo lei cambia qualcosa? No, vabbè, lasciamo. Io ho capito, si deve toccare o non si deve toccare? Si può toccare? È un tabù o no? No, non deve essere un tabù. Non è un tabù. Non è un tabù, benissimo. Abbiamo tabù, accertato che non è un tabù. Va toccato dopo le liberalizzazioni. Lei la liberalizzazione. Questa è la mia posizione. Va bene, grazie. Francesco Boccia. No, un attimo solo, scusi, ma è vero che lei e la signora De Girolamo aspettate un bambino? No. Annunciamo qui Urbi e Torbi, no? Ogni volta una domanda ci deve essere, una domanda, una. No, non c'è. No, guardi, appena ho novità gliele comunico, lei è sempre in anticipo. Non ci sono, non ci sono novità. Al momento non ci sono novità. Ma che significa al momento? Sì o no? Mi sta confondendo con Corona e Belen. Ma non sono io che fa le foto su chi o su altri settimanali in motorino, scusi. È lei che si sta avvicinando al modello Corona Belen. Spero che lei non ci arrivi al modello Corona e Belen, però insomma. No, Cruciani. Mi avevano detto che c'era già passato lei e quindi mi sono adeguato. Questa è buona, però questa non è male. 2-0 per Boccia, faccio andare oltre. Questa è buona. Però guardi 2-0 per Boccia, peso Cruciani. Però io dagli errori degli altri cerco di imparare. Lei mi sa che non ha imparato dagli errori degli altri. Questo è il punto. Perché bisogna sbagliare in proprio, Cruciani. Ma le rifarebbe quelle foto o no? Sì. Sono foto. Ma le foto, guardi, le foto non fanno male a nessuno. Ha mai visto uno danneggiato con una fotografia? No, soprattutto quando la vuole fare. Io sì, un po' danneggiato lo sono stato. Non è che la volessi fare con la foto. Ma la differenza, guardi, Cruciani, è che cos'è? La differenza è che io sono stato assolutamente consapevole. Appunto, no, infatti la differenza è quella, certo. Va bene, grazie, un abbraccio. Posso dirlo, ero con la mia donna, Cruciani. No, ma non c'è dubbio. No, ma lei ha ragione su questo, Adesso non faccia il moralista, però, non faccia il bravo ragazzo, che insomma, lasciamo perdere, va. Adesso non è che lei può fare qui quello che insegna agli altri il bon ton e il modo di comportarsi. No. È lei che ha tirato fuori le fotografie. Grande battaglia, grazie a Francesco Boccia. Beh, abbiamo fatto aspettare un ospite, ma volevo duettare un po' con Francesco Boccia. Un ospite, caro Parenzo, che... Guarda, il mio rientra tra i lavori usuranti e poi spiego perché sono stato 10 minuti col microfonino del telefonino, quindi voglio che la mia categoria rientri tra i cosiddetti lavori usuranti. Vabbè, ma tu sei già inserito in questa categoria, basta che scrivi una lettera molto semplice al signor Bonanni o alla signora Camusso, ti fanno subito rientrare dai lavori usuranti. Lì, da quella parte lì, da parte dei sindacati, più lavori usuranti ci sono, meglio stanno. Nicolò Cristaldi, buonasera, anzi Nicola, buonasera. Nicolò, perché scrivete Nicolò? Perché? Nicola si chiama, Nicola, o sbaglio? Nicolò? Mi chiamo Nicolò o sono detto Nicola? Ah, detto Nicola, perché qui vedo Nicola Cristaldi e poi vedo dall'altra parte Nicolò, ma insomma come si chiama? Ma è lei? Parente del produttore? Il mio nome è Nicolò, ma gli amici mi chiamano Nicola. Benissimo, dunque indifferente... Parente del produttore? No, perché Parenzo chiede se lei è parente del produttore. No, No, non sono parenti del produttore. Il produttore Cristaldi, grande. Ma non è produttore. Che sono tutti quelli che si chiamano Cristaldi sono parenti del, no, del produttore, so, Cristaldi. È una domanda legittima. Tu lo sai che Nicola Cristaldi, o Nicola Cristaldi che dir si voglia, è sindaco ancora per pochi giorni di Mazzara del Vallo, comune sopra i 20.000 abitanti, nello stesso tempo deputato. E insomma, alcuni giornali hanno scritto che si dimette perché la legge vuole così. Si è già dimesso Cristaldi oppure la lettera deve essere ancora firmata? No, io mi sono dimesso da deputato già da qualche giorno. Da deputato, sì, scusi, ogni tanto queste cose mi confondono. Ho deciso di restare sindaco della città. A regione del sindaco della città? Come mai? Qualcuno sostiene, ma tra 30 secondi abbiamo la pubblicità, perché in questo modo lei, come dire, sfugge alle nuove regole che riguardano il vitalizio, che iniziano il 1 gennaio 2012, anche se c'è una legge che glielo impone, e dunque lei rientra nella vecchia, cioè prende subito la pensione da deputato, con anche il vecchio schema, cioè con i contributi precedenti e non attraverso il sistema nuovo. Qualcuno dice paragurata? Furbizia? Le grandi inchieste di Parenzo alla Zanzara, le grandi inchieste. Ma poi ci spiegherai dove sei esattamente. Allora dai un titolo a questa cosa. Mi trovo... Sono a un'iniziativa di Vedrò. Sì, spiega che cos'è Vedrò però. Vedrò è l'associazione che ha fondato Enrico Letta con altri deputati di Partisan, del PD e PDL, tutti i deputati. Vabbè, insomma, sei una... volonterosi del cambiamento. Sei chez toi, sei a casa tua, insomma, diciamo la verità. Sei a casa tua, vabbè. E c'è questo aperitivo, non di solo spread, quasi a dire giustamente che non si vive soltanto di spread, ma la cultura può essere un grande, grandissimo volano anche per l'economia. E qui a fianco a me... No, aspetta, abbiamo, scusa, no, no, no. Sindaco di Napoli, va bene, dopo, c'è tempo. Che sente dentro? Questa cosa qua che per lei le regole nuove non scattano, le fa piacere un po'? Ma intanto non capisco quali regole avrebbero dovuto scattare. Io non rientro fra quelli da lei individuati come soggetti che possono fare furberie in tal senso. Il mio regime, mi fossi dimesso anche a febbraio o a marzo prossimo, non sarebbe assolutamente cambiato. Cambierà per coloro che hanno una sola legislatura o per coloro che verranno nella prossima legislatura. Per me non sarebbe cambiato assolutamente. Come no? Un po' sarebbe cambiato il tipo di... No, assolutamente no. Non sarebbe cambiato minimamente. Preciso una cosa, per intanto io avrei fatto ben volentieri a meno dal dimettermi da deputato, avrei voluto continuare a fare il deputato e avrei fatto il deputato e il sindaco di Mazzara del Vallo gratuitamente. Lei quando è stato eletto sindaco, mi scusi? Sono stato eletto nel 2009 e da 2009. 2 anni e mezzo faccio il sindaco senza essere remunerato, così come per 10 anni sono stato sindaco in altra città e non sono stato remunerato. Ho avuto l'indennità. Beh, quello è normale perché lei prendeva l'indennità da deputato, no? Benissimo, non è normale, è previsto dalla legge. No, sì, è normale, è previsto dalla legge, certo. È previsto dalla legge. Adesso io mi sono dimesso da deputato non per un atto di furberia come si vuol far credere, ma perché un cittadino onesto di Mazzara del Vallo ha fatto un ricorso facendo riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale e obbligandomi a dimettermi entro i 10 giorni dal ricorso presentato. Dopo che mi è stato notificato, se io non mi fossi dimesso immediatamente sarei decaduto da sindaco, sarei rimasto parlamentare decadendo da sindaco. Ho fatto invece la scelta di dimettermi da deputato e di restare. Però scusi Cristaldi, scusi un attimo, abbia pazienza, il punto è un altro. Perché lei vuole rimanere a fare due cose che oggettivamente... Mazzara del Vallo è una città di quanti abitanti? 60.000 abitanti, cioè comunque fare il sindaco di una città di 60.000 abitanti non è che sia una passeggiata, è una cosa abbastanza impegnativa. Guardi, è impegnativa indubbiamente, lei tenga conto però che io sono uno dei parlamentari più presenti sia in commissione che in aula. 60%, 60% di presenza e 40% di assenza. Posso dire una cosa, tranne i 3 mesi in cui sono stato male e ricoverato, se lei fa i calcoli io sono a quasi il 95%, io ero... Dunque in quel calcolo del 60-40 ero regolarmente autorizzato dalla Camera dei Deputati a farmi operare per non restarci secco, come suol dire. No, per carità, però mica volevo mettere in discussione questo. Dai dati che si hanno da Open Policy, che lei come sa controlla l'attività dei deputati, c'è il 60% di presenza e il 40% di assenza. No, il dato ufficiale è il 73%. Io sono il 73%, se si tiene conto dei mesi... Dei mesi sarebbe al 95%. Io sarei al 95%. Ma come fa a fare, come ha fatto a fare queste due cose che sono insomma... fatto i calcoli perché tenga conto che sono stato quasi sempre presente saltando tutti no, i giorni. No, come ha fatto a fare questo lavoro, insomma, doppio lavoro così impegnativo? Insomma, è una cosa da spezzare alla schiena o no? Ma guardi, se ci ha rimesso di salute o no? Questa domanda, no, io non ci ho rimesso in niente, ci ho sempre guadagnato anche in euforia e in salute perché ho fatto sempre il lavoro che mi è piaciuto. Fare il sindaco è una cosa che mi piace, fare il parlamentare è stata una cosa che mi è piaciuta. Sono ma è uno giusto che lavora, l'incompatibilità che è giusto o no? L'incompatibilità è giusto o no? No, l'incompatibilità non solo non è giusta, perché l'incompatibilità deve essere sancita dalla gente e dagli elettori. Se i cittadini hanno votato per me dandomi il 70% dei consensi come sindaco, sapendo che io ero anche parlamentare, ci sarà pure una ragione. Ho capito, ma non conta e solo quello, la no? Gente, tra l'altro mi consenta di finire, sì. Quando uno fa il deputato e fa anche il sindaco, fa guadagnare la pubblica amministrazione, perché lei giustamente ha ricordato che lei non viene retribuito. Non viene remunerato. E quindi in 12 anni e mezzo in cui sono sindaco io penso dunque che questa legge, questa legge un miliardino di lire questa legge che è intervenuta, la sentenza che è stata una sentenza della Cassazione, la sentenza della Corte Costituzionale per, secondo lei in realtà fa spendere soldi allo Stato, è sbagliata perché fa spendere in più dei soldi allo Stato, o sbaglio? È sbagliata perché ancora in Italia si può dire che è sbagliata anche una sentenza della Corte Costituzionale. Certo. Dico che è una cosa che porta danno anche all'erario dello Stato. Però voglio dire. Scusami. Parenzo, dimmi, intervieni tu. No, dico sulla questione delle nuove norme, sulla pensione del sindaco di Mazara, il fatto che lui si sia dimesso prima del 31 dicembre non può dirci che non influenza, perché invece lui ricadrà sotto il vecchio regime, su questo non c'è dubbio. Quell'altro regime, quello retributivo e non quello contributivo. Ma che c'entra? Purtroppo c'è una grande ignoranza anche nell'informazione in coloro che si trasformano subito in Soloni. Vi sto dicendo che io non sarei comunque rientrato nel nuovo regime, sarebbe partito anche per me il nuovo regime dal 1 gennaio, il che significa che dovendo poi fare il conto del vitalizio per gli anni precedenti si sarebbe comunque però per gli anni successivi no regime. Per gli anni successivi no, per gli anni successivi no, ma se mi hanno buttato fuori da parlamentare cosa dovevo fare? Dunque cambia qualcosa, non ci può dire che non cambia nulla, perché è questo che dico. Non cambia assolutamente nulla, non sarebbe cambiato deputato anche da più legislature, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Cambia il periodo che parte dal 1 gennaio. Dal 1 gennaio va bene, ma dal 1 gennaio per quello che ancora avrei dovuto fare, ma per me non sarebbe cambiato, non avrei preso un vitalizio inferiore. Un po' leggermente inferiore, perché dal 1 gennaio valevano regole diverse, ma comunque lasciamo perdere. No, vabbè, ma sono pochi euro in realtà, la differenza. Mi piace rispondere a tutte le domande e voi prendete atto delle mie risposte. Se voi insistete, non è che io sono della POA, della Pontificio per l'Assistenza. No, che per carità. Mi devo convincere. Qual è la verità delle cose e poi voi. Scusi un attimo, però, secondo lei il cambiamento di regole è corretto o no? Cioè, lei comunque andrà in pensione con un sistema che è molto diverso da quello degli italiani, no? Secondo lei è. È molto diverso da quello degli italiani. Lei versa molto, cioè rispetto a quanto prende, versa sicuramente molto meno di quanto versa un lavoratore italiano. Il sistema dei deputati è sicuramente più favorevole rispetto al sistema di qualsiasi pensionato italiano. Ora, voglio dire, questa cosa qui è una cosa giusta, la modifica che è stata fatta, oppure no? No, guardi, per quel che mi riguarda la vicenda non mi intacca direttamente, quindi. Ma lo so che non la intacca, sto dicendo. Non mi intacca perché io non sono più parlamentare. Ho capito, però lei. Non si applica il futuro. Dopodiché lei se pone una domanda e fa una considerazione, mi lasci anche fare la mia considerazione. Certo. Perché è sempre disinformazione anche. Perché io non è vero che ho versato molto meno di quanto poi. In proporzione sì, come no? In proporzione sì. Voglio dirle anche una cosa, sono ben pronto a firmare un documento che mi dice che non ho più diritto al vitalizio purché mi si restituisca i soldi che io ho versato. I soldi miei, non i soldi che ha versato lei per me, i soldi che io ho versato per me. I soldi che lei ha versato erano quelli dello stipendio da deputato. Guardi che io sono parlamentare da 30 anni. Che ho versato milioni di euro allo Stato. Certo. Allora, mi si restituiscano i soldi, quelli che ho versato. Sì. Ma io volevo dire semplicemente che era un sistema, ed è un sistema in parte largamente vantaggioso da privilegiati. Lei non si sente privilegiato? Non lo so. so se è privilegiato, ma non pensi che di essere io l'unico privilegiato di questo mondo? Se questo è un privilegio, e così ha ritenuto il mondo anche legislativo e gli organi delle istituzioni, beh, allora si prende atto che è un privilegio. Ma se lei fa riferimento alla quantità di somme che io ho versato all'erario, le posso dire che anche se Dio sarà molto buono con me, molto generoso, non riuscirò a riprendere tutti i soldi che ho versato. Cristaldi, non voglio, per carità, lei ha versato un sacco di soldi, va in pensione tra poco. No, ma non voglio assolutamente dire che lei ha rubato qualcosa. Voglio dire che la sua condizione, la sua condizione di pensionato dal Parlamento, che scatterà tra pochissimo, è una condizione di privilegio molto diversa rispetto a quella di un pensionato italiano. Cioè, questo non c'è dubbio. Tutti i calcoli sono lì a dimostrare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di intervenire. Lei è giornalista come lo sono anch'io. Sì. Se lei versa una cifra, poi si dovrà attendere una pensione. Ecco, appunto. In rapporto a quello che lei ma versa. Il rapporto è largamente favorevole in questo 100, caso. Se lei versa 100, non può avere la stessa pensione di chi versa 1000. No, io ho versato 1000 e ho diritto ad avere un assegno di vitalizio proporzionato alle somme che ho versato. Ma la proporzione la fa la legislazione favorevole fino a questo momento del vitalizio dei parlamentari. Ma lasciamo perdere questo argomento. Lei è vero che prende anche il vitalizio dall'Assemblea siciliana? No. Certo, ho lavorato per prenderò il vitalizio, non l'ho preso finora. Prenderò il vitalizio dell'Assemblea regionale siciliana perché ho versato contributi per oltre 20 anni dall'Assemblea regionale siciliana. Ma le due cose, come è possibile? Se lei domani fa il parlamentare, non è che rinuncerà alla pensione di essere giornalista, no? Ho lavorato per due enti diversi e naturalmente prendo due vitalizi avendo versato sia nell'uno che nell'altro caso. Ma non sarebbe il caso di intervenire su questo doppio vitalizio, cioè il cumulo di questo vitalizio, sono anche no? Disponibile. Sono anche disponibile, allora si faccia il calcolo di quanto ho versato sia all'Assemblea regionale siciliana e di quanto ho versato alla Camera dei Deputati, si faccia una ricongiunzione e mi si dia un solo vitalizio, alla condizione che sia proporzionato alle somme che ho versato. Sì, ma la proporzione è decisa da forse lei non è che è automatica la proporzione è secondo le regole che ci sono, e sono regole estremamente favorevoli, e questo è il punto fondamentale. Comunque... E le sto dicendo, se dipende da me, io non voglio questo grande privilegio di cui fa riferimento lei. Desidero avere soltanto i soldi che ho versato, non voglio più avere questo privilegio. Mi volete dare i soldi che ho versato, restituitemi in un sol colpo i soldi che ho versato, cosicché io prendo i soldi, mi riporto in un'assicurazione e mi faccio fare una pensione con l'assicurazione. Comunque devo dire io non voglio privilegi, voglio i soldi miei, quelli che io ho versato. I soldi che ho versato qualcuno me li deve restituire. Comunque io devo dire una cosa, i soldi che ha versato sono sempre stipendi pubblici decisi dal pubblico, evidentemente erano secondo me suoi, è chiaro, i contributi che io ho versato sono i contributi che versa lei. No io li, per lei me avrà una pensione inferiore alla mia perché lei verserà un centesimo di quello che ho versato. Non sia così sicuro, io verso un centesimo di quello che versa lei. Caro Cristo, sto scherzando naturalmente. Anch'io abbiamo la pubblicità. Sindaco. Un attimo solo, torniamo tra un attimo, perché io devo dire la verità. Cristaldi è uno che io naturalmente sono in disaccordo con quello che dice, cioè secondo me il fatto che ci sia un doppio vitalizio, che i vitalizi erano organizzati in una certa maniera, mi trova contrario, però almeno ci mette la faccia, viene qui e dice la sua, senza timori, senza paure. Pubblicità, torniamo subito. Eccoci qui, La Zanzara, edizione quasi speciale questa sera con signor Parenzo, che è inviato in un luogo segreto. No, non è segreto, vi saluta la signora Satta Flores, che è qui, il signor Cruciani. Sì. Sì, salve signor Cruciani. Buonasera, io ogni tanto mi presento delle persone di cui non ho conoscenza, però va bene, insomma. No, come no, lei ti conosce, ha detto sei Cruciani, sei baticissimo, bravissimo, voleva salutare. No, Roar anche. Roar. Che cos'è? Roar, bene. Ma secondo te il fatto che io tenga il microfono vicinissimo alla bocca della signorina è considerato lavoro usurante o no? No, questo no. Questo francamente no. Va bene. Allora, Nicolò o Nicola Cristaldi, PDL, sindaco di Mazara del Vallo, resterà sindaco di Mazara del Vallo perché si dimetterà, se non già non si è dimesso, da deputato. Mi sono già dimesso. Si è già dimesso, ma l'assemblea ha già accettato? Sì, ha accettato. Cioè lei è già ex deputato. Non sono più deputato. Non è più deputato. Senta, da qualche parte ho letto che lei prende, allora facciamo bene i conti, perché lei non si vergogna di nulla, giustamente dice ci sono soldi miei e non vedo perché dovrei vergognarmi, questo è corretto. Prenderà tra poco, dal 1 gennaio, la pensione da deputato che ammonterà a circa 5.800 euro, giusto? Sì, vuol dire che non ho ancora fatto i calcoli, ma presumo che una cosa del genere, se 100 più 100 in meno dovrebbero darvelo. Dovrebbe essere quello. La pensione da cosa la prende? Da deputato regionale quando la prende? Sì. No, guardi che quella da parlamentare non è 5.800 euro. No, scusi, è 3.500 se non sbaglio, no? 3.500. Invece quella da deputato regionale è 5.800. Non credo che arriverà a quella cifra, ma comunque intorno ai 5.000 sicuramente. A 5.000, quella da quando la prende? Da subito, penso. Da subito. In più lo Stato le pagherà lo stipendio da sindaco, sbaglio? No, lo stipendio da sindaco non me lo paga lo Stato, intanto me lo paga l'ente locale. Vabbè, sì, insomma, lo Stato sì. Adesso se io lavoro, non ho capito, se lei è giornalista ed è pagato... Ma non la sto attaccando, Cristati, lei... Non si preoccupi, lei può attaccarmi... Ma non la sto attaccando! Che io possa dire quello che penso. Certo, certo. Per cui allora, si trova nella strada... Ho fatto il sindaco per 12 anni e mezzo sì. E l'ho fatto gratis. Non retribuito, sì. Non retribuito sì. Adesso io non sono più parlamentare sì. E sarò pagato come sindaco sì. Però non prenderò l'indennità di sindaco, quella che spetta, prenderò una percentuale dell'indennità parlamentare, cioè io prenderò come indennità di sindaco il 40% dell'indennità parlamentare. Benissimo. Appunto perché godo dell'assegno di quiescenza. Benissimo. Quindi non prendo due stipendi, ma prendo una integrazione all'assegno di quiescenza. Benissimo. Dunque lei paradossalmente, come ho letto su Repubblica, si troverà a guadagnare da ex parlamentare più di quanto ha percepito sino adesso, cioè poco più. Ma come, è finito che il parlamentare guadagnava 30.000 euro al mese e adesso ne guadagna molto meno? Non ho capito, i calcoli bisogna farli. E poi cosa importa? A me quanto guadagnerà il deputato non mi interessa. Ripeto che io avrei continuato a fare il parlamentare, sì. Avrei preso l'indennità di parlamentare, avrei rinunziato all'indennità di sindaco. Ma lei come faceva? Ricorso, sì. E se non ci fosse stata questa decisione della giunta per le elezioni di sancire la incompatibilità. Lei ha ancora i baffi? Cristaldi ha ancora i baffi? Sì, baffoni. Sempre baffoni, eh? Sempre no, baffoni. Per avere sindaco. È un po' dimagrito. Nel 2010 fece una gara tra i sindaci sì, più. Sì, e la vinse anche. La vinse anche. Dunque, oggi a quanti chili siamo? Cristaldi? Sono 83 chili. 83 beh, 83 kg, buono, eh? È buono. No, sì, va bene, è peso giusto. Un anno fa quant'era? 99 kg. 99, beh, insomma, Parenzo, 99. No, beh, ha fatto la vita. È dimagrito e ci fa dimagrire la finanziaria, quindi è in linea con l'austerity del paese. No, però la vita stressante, evidentemente, tra Mazzara del Vallo e Roma. Mi dica un po' la sua settimana, com'era la sua settimana? Beh, adesso la settimana di... era che il lunedì sera ero già a Roma fino al giovedì sera. Sì. Il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì mattino li ho dedicato alla città di Mazzara del Vallo. Sì. Poi lei sa che esistono gli strumenti tecnologici sì. Che mi consentivano anche con un computer di essere collegato continuamente con sì. L'amministrazione comunale. Ore di sonno? Io sono uno che dorme poco, devo dire la verità, ma ho il grande pregio di dormire profondamente. Quando metto a letto dopo 30 secondi dormo di già. Hai capito, Parenzo? C'è sempre qualcosa da imparare. Aspetta che ti passano qui sul taxi, sono salito improvvisamente al volo, vedi che saluti. Mi sto sentendo alla radio, è un'emozione bellissima. Salve signor tassista. Ciao Cruciani. Buonasera signor tassista, come sta? Deve passare lì però. Dica qualcosa a Parenzo che vuole liberalizzare tutte le licenze dei taxi, così mazziate quando entra sul taxi, mazziate. Sì, adesso me la prendo con Parenzo, lo sistemo io. Se lo cucini e lo porti in mezzo a qualche tassista, al signor Bologna, questi sindacalisti qua che te lo corcano un po'. Sì, ma c'è gente anche più cattiva. Vabbè, adesso sto scherzando naturalmente. Personalmente. Però adesso vuol dire, non è che me lo porta sul serio in mezzo a quelli lo corcano sul serio. Non si preoccupi. Va bene, grazie. Buonasera. Allora, andiamo al Maxi. La giornata ideale di Parenzo. È tutto qui, tutto trasparente, una casa di vetro. Anche Mazzara del Vallo deve essere una casa di vetro, signor Cristaldi. Lei deve dirci tutto quello che percepisce, giusto così o sbaglio? ho già detto tutto quello che percepisco. Assolutamente. Dunque lei non si vergogna assolutamente di nulla? Si vergogni lei, scusi, no, lei l'ha detto fatto 5 volte, io non ho niente da vergognarmi. Ma no, io l'ho detto, io non mi vergogno. Mai da vergognarmi del continuare ad avere questo rapporto anche con lei. No. Un tono che deve essere usato nei confronti di una persona per bene. Ma guardi, che dall'età di 30 Cristaldi, anni è parlamentare. Scusi un attimo, guardi che io non la sto ma non lo sto attaccando, siccome i ladri si devono vergognare, non le persone per bene, ma perché mi attacca? Ma perché mi attacca? Lei dice lei non si vergogna. No, ma non lo stavo dicendo perché io lei, scusi, intanto per cominciare a precisare. No, Cristaldi, io non sto dicendo che lei si deve vergognare, non ha capito, siccome molti che ci scrivono dopo aver letto quell'articolo su Repubblica e altri articoli dicono si vergogni, prende due vitalizi e anche adesso lo stipendio da sindaco, le sto rivolgendo facciano la ricongiunzione. Se uno lavora per un ente e poi lavora per un altro ente, se vuole prendere una sola pensione, c'è il diritto alla ricongiunzione. Sì. Inventino lo strumento della ricongiunzione. Inventino sempre gli altri. Lei è in Parlamento, è il deputato. Sono parlamentare. Prima lo era, però. Io. Che vuol dire? Prima lo era. Ho capito. Ma prima non ero beneficiario di tutto questo. Beh, come l'ho diventato adesso? Certo, io non è beneficiario. Avrei voluto fare il parlamentare, avrei voluto continuare a fare il parlamentare e avrei voluto fare il sindaco gratuitamente. Lo Stato ci avrebbe guadagnato. Chi ha fatto il ricorso la Corte Costituzionale, che non ha tenuto conto anche dei danni dell'erario, sapeva che questo si sarebbe verificato. Un danno per l'erario. Vabbè. Certo, comunque guardi, non se la prenda con me, perché secondo me lei non si deve vergognare di nulla. No, per carità, ma secondo me lei non si deve vergognare, con i vocaboli e gli aggettivi che si usano. Sì, ho capito, ma non li ho. Allora, io forse mi sarò espresso male. Non ho detto che lei si deve vergognare, ho detto che c'è un sacco di gente che pensa che accumulare due vitalizi, seppur lei ha pagato, nonostante il fatto che lei abbia pagato naturalmente i contributi, sia comunque sbagliato, sia qualcuno dice addirittura una vergogna accumulare due vitalizi. Lei dice no. Io rispondo che questa convinzione o questa accusa che viene lanciata è frutto di disinformazione, perché se c'è un principio che non può essere contestato è quello di ricevere come assegno di vitalizio, come pensione, come vuole chiamarla lei, una cifra proporzionata a quello che si è versato. Se uno ha versato 100 prende una pensione in proporzione a 100, se uno ha versato 1000 è giusto che prenda la pensione. Il traffico, poi concludo con Nicola Cristaldi che è molto gentile, sindaco di Mazara del Vallo, con i baffi, pesa, abbiamo detto, 83 kg, è un signore che rivendica la sua storia politica, quello che ha fatto, i soldi che adesso percepirà. Traffico. Jonathan dalla provincia di Bologna, 800 24 00 24, sono cascati tutti, linee cadute, sia Parenzo, Parenzo c'è, Cristaldi. Io solo volevo dire una cosa, signor Cristaldi. Per i saluti, adesso lo chiamiamo subito. Sì. Jonathan intanto, provincia di Bologna. Sono Bravo, anche io, buonasera. Sì, no, bisogna dire al signor Cristaldi che non è che i contributi non sono assolutamente proporzionati a quello che uno prende, cioè sono pensioni estremamente generose, sia quelle della Regione Sicilia sia quelle del Parlamento. E questo lui non è che ci ha mai pensato a modificarlo, perché naturalmente erano pensioni molto generose, era un sistema molto molto generoso. Jonathan, provincia di Bologna. Buonasera. Ma forse non ci vuole più rispondere, pensa che l'abbiamo insultato, ma non vogliamo insultarlo, vogliamo combattere come leoni sempre. Eccoci, forse, aspetti Jonathan un secondo che salutiamo il signor Cristaldi, eccoci Cristaldi, siamo qui. Vede Cristaldi. Dici. Io le voglio solo dire questo con grande affetto e anche abbracciandola fortissimo. Ma non c'è bisogno che l'abbracci, non c'è bisogno. No, voglio abbracciarla forte mentre dico questa cosa. Lei non si deve arrabbiare con noi, perché siccome parliamo di soldi pubblici, amico mio, allora è giusto fare chiarezza fino all'ultimo centesimo. Ma io non ho nascosto nulla, ho detto tutto. Ma quindi non si arrabbia. Ma si è arrabbiato però... con gli aggettivi. Si è arrabbiato con alcuni aggettivi, ma giustamente non è che uno vuole essere trattato come un ladro, come un lestofante, come un... Però che ci sono degli sprechi in Regione Sicilia è notorio anche i sassi del Colosseo. Io adesso sono qui con i sassi del Colosseo e anche i sassi del Colosseo mi hanno appena detto: guarda che ci sono sprechi in Regione Sicilia. E le pensioni, sono estremamente generose. Gli sprechi, lo sa cosa posso dirle una cosa? Guardi, le do una cifra degli sprechi, avendo fatto io una indagine ben precisa. Lo sa quanto costa il contributo all'informazione, all'erario dello Stato? Sì. Ve lo dico io. Sbagliato. Un miliardo e 400 milioni l'anno. Tagliare tutto. via. No, se dovete tagliare, volete aprire una cosa del genere, aprite una trasmissione su questo. Sì, ma non si preoccupi, lo facciamo pure, lo facciamo pure, non abbiamo problemi. No, guardi, senza polemica, io non è che perché mi trovo in una situazione faccio una polemica. Ma noi non campiamo di assistenza, Cristaldi, noi non campiamo di assistenza, se lo ricordi, qui non campiamo di assistenza. Guardi, lei ha campato di stipendi pubblici, noi no. No, guardate, voi prendete il contributo dello Stato. Sì, ma non campiamo con quello, lei invece ha campato solo di stipendi pubblici. Unico caso al mondo, solo in Italia le radio anche private prendono il contributo dallo Stato. Benissimo, ma non campiamo di quel contributo. 1,4 miliardi milioni l'anno viene data all'editoria. Sì. Quindi se vogliamo parlare di spreche, di cosa, sono pronto a misurarmi come volete. Cristaldi, lei ha ragione, ma la differenza lo sa qual è? Lei ha perfettamente ragione, bisognerebbe tagliare anche quelle cose lì, ma la vera differenza è che noi però anche qui, e parlo per quello che ci riguarda, per quello che riguarda Radio 24, noi non campiamo con quei soldi, ma campiamo con la pubblicità e campiamo di investimenti privati. Ma voi campate anche Se togliessero quelle cose potremmo campare lo stesso. Fatemi poi il promotore di una campagna per evitare, guardate, al di là di Radio 24, che è una radio che io stimo, che ascolto sempre, bravo, quindi scusatemi, male, non è grazie. Questo è il problema, sì. Però sappiate una cosa, voi avallate giornalini, questo, la discussione che a noi lo dice, una copia, a noi lo dice 5 milioni all'anno di contributo, a noi il lo manifesto dice. 7 certo. milioni all'anno di contributo, certo. Il Corriere della Sera 15 milioni all'anno di contributo, sì. Repubblica 13 milioni all'anno di contributo. Però Cristaldi, e posso continuare sino ai giornali, lei deve ammettere, fino ai miei giornali, io posso giornale, ammettere tranquillamente, guardi Cristaldi, posso ammettere tranquillamente che ci sono dei finanziamenti sbagliati, lei però deve ammettere che le pensioni che sono state date sia ai deputati finora e sia soprattutto ai consiglieri regionali della Sicilia sono estremamente generose. E dunque lei come no? Ma generose, non le ha rubate, ma sono generose, lo ammetta. Lei è disinformato. No, sono informatissimo su questo. Guardi, per legge dello Stato e per legge della Regione, il consigliere regionale, che poi in Sicilia è un deputato regionale, vabbè, non quello è un consigliere. No. Ma guardi che è fondamentale. No, ma lo so la differenza. Il deputato regionale siciliano, sì, è equiparato al senatore della Purtroppo. Perché? Questo è un altro discorso. Ma non è un altro, è sempre un altro discorso. E purtroppo è così. Perché cosa vuole modificare? La Costituzione. Ma è lei che è in Parlamento a modificarlo. Ma la Costituzione non è una legge. Sì, le regioni a statuto speciale. Lo so, le regioni a statuto speciale. Ma si cambia. Pure modificare il concetto della democrazia, potete fare tutto. Però perché non mi dice che il suo trattamento è privilegiato? Scusi, perché non mi vuole dire che il suo trattamento pensionistico è privilegiato? Continuate così, togliette tutto, levate tutti, getto di presenza, indennità, levate tutto, nominate i commissari ovunque. No, fate perché? Questo. Poi della democrazia vedrete cosa raccoglierete. Della democrazia. No, però scusi, Cristaldi, io non le sto dicendo che lei ha rubato, però lei che è una persona, mi sembra, trasparente, che vuole, che non si nasconde, lei può tranquillamente ammettere che il regime pensionistico di cui andrà a godere è estremamente favorevole rispetto agli altri, è così. E vi sto dicendo una cosa. Che non è così, lei dice che non è così. Vabbè. No, guardate, vi dico soltanto una cosa. Non voglio vitalizio. Se mi restituiscono i soldi che ho versato, quelli che ho versato io, me le investe, guadagno molto di più di quello che mi dà. Ho capito, ma è andato in un altro modo. Quei soldi là sono andati a finire nel grande calderone delle pensioni. Vi dico, dov'è il problema che voi non avete centrato? No, e qual è? Voi confondete il parlamentare che ha 7-8 legislature con quel parlamentare che sta 2-3 mesi e dopo 2-3 mesi, come è successo con molti deputati radicali, hanno potuto prendere l'assegno di quiescenza o il vitalizio. No, sbagliato anche quello. Ma, voi non dovete prendervela con chi, come me, per esempio, a poco più di 30 anni è diventato deputato, oggi ne ha 61 anni, ha versato 3 milioni di euro allo Stato. Scusi, 3 milioni di euro, però in rapporto a quello che lei ha versato, il regime, comunque, sia da deputato sia da deputato regionale, i due regimi sono molto favorevoli, lo dicono le cifre, rispetto parallelamente a quello che può versare un contribuente italiano. Questa è la sua convinzione. No, è la mia convinzione, è la realtà. Scusi, ma li ho versati io questi soldi? Certo, ma non è che... Allora mi rinuncio al vitalizio, ne restituisco i miei, sono i miei soldi. Vabbè, ma che vuol dire? Sono certo che sono i suoi soldi, perché li ha versati allora, secondo lo stipendio che lo Stato le ha dato, non è che cioè l'ha deciso lo Stato. Come lei, così come lei è impiegato, la sua pensione dipende da quello che versa il suo datore di lavoro. Ma certo, no? Non c'è dubbio. Sì. E allora, proporzionatamente. Ma non è proporzionatamente, dipende dal regime che c'è, non è proporzionatamente. Avrei fatto un altro mestiere, ho fatto questo di mestiere, l'ho fatto con dignità e certo, con onestà. Ma questo nessuno, lo mette in dubbio. E allora, se è così e ho versato quei soldi, se mi dovevano dare di meno, probabilmente io avrei deciso di fare le scusi, però Cristaldi, oppure avrei chiesto di essere assunto da Radio 24, avrei fatto io il suo mestiere. Però Cristaldi, ma io ho deciso di fare un altro mestiere. No, certo, però io sto dicendo che se tutto fosse così lineare, come dice lei, io siccome ho versato tot, ho diritto a tot, non ci sarebbe bisogno di riforme del sistema pensionistico. Siccome c'è bisogno di riforme, evidentemente qualche sistema pensionistico è stato gestito ed è stato organizzato in maniera sbagliata. Solo che avete sbagliato soggetto. Ma no, invece abbiamo centrato, guardi. Questo, vabbè, se lei no, ho centrato rispetto alla politica, non rispetto ad altre categorie. Le sto dicendo che c'è un problema di proporzione fra ciò che si versa e ciò che si riprende. Appunto. Io, anche dovessi campare fino a 90 anni, non prenderei i soldi che ho versato. Ma che c'entra? Quello dei versamenti, quello non c'entra niente rispetto al tipo di pensione. Comunque, Cristaldi, non ci intendiamo su questo. Io la ringrazio. No, c'è una cosa sulla quale mi darà ragione. Dobbiamo interrompere per la borsa e direi anche salutare Cristaldi. È vero, Cristaldi, che lei è un appassionato di, l'avevo segnato qui, è un appassionato di ceramica, o no? Sì. Un grande appassionato di ceramica. L'unica, l'ultima cosa che ha fatto qual è? Di ceramica? Sì, di ceramica. Ho fatto il recupero del centro storico della mia città, regalando le ceramiche al mio comune. Ma non fa delle cose anche con qualche collegamento alla politica? Qualche volto, qualche cosa di ceramica, no? No, questo non mi dispiace, però mi sta dando una buona idea. Appunto, no, guardi che poi è anche appassionato di un'altra cosa, aspetti, me l'ero segnato. Fatto la ceramica con Scilipoti, ad esempio, che è siciliano. Signor Scilipoti, vabbè. Che bella idea. Abbiamo la borsa, è troppo tardi. Cristaldi, grazie, a presto. Grazie a voi, buona serata. Buona pensione. Buona pensione. Bye, anche a voi. Bene, 20:37, 800 24 00 24, grande combattente, signor Cristaldi. Signor Cristaldi, Jonathan, provincia di Bologna, con cui eravamo in collegamento prima della borsa delle 20:30. Prego, Jonathan. Buonasera, no, volevo fare una considerazione. Ho sentito qualche minuto fa, forse anche mezz'ora fa, un ascoltatore che proponeva agli italiani di acquistare titoli di Stato, se ho capito bene. Sì. Cioè, è una proposta che hanno molti. Allora io così ho avuto un flash sul momento e ho pensato, perché non se lo comprano i parlamentari, il debito italiano? Magari visto qualcuno che c'è una discussione... Come? Qualcuno l'ha fatto, ad esempio la Meloni, l'ex ministro Meloni, ha comprato titoli di Stato. No, io proponevo un'altra formula. Visto che c'era discussione sulla retribuzione dei parlamentari, io proporrei un 50% sotto forma di contanti e un 50% come titoli di Stato. Visto che ci credono, potrebbero fare una cosa di questo tipo qua. Poi non dico quello che è il numero giusto di parlamentari, perché non me ne intendo di politica, però insomma, questo può essere un bel primo passo da parte loro. Tagliare al 50% il contante e un 50% di debito italiano. Sì, ma non, guardi, questa cosa dell'acquisto dei titoli pubblici, a parte che adesso è molto favorevole dal punto di vista del rendimento, però non è che può essere un obbligo, cioè non può essere un obbligo per nessuno, per nessuno. Giuseppe da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare una riflessione su quello che ha detto il sindaco di Mazara del Vallo. Cioè, noi il dipendente in generale lavora dalle 6 alle 8 ore, anche i dirigenti pubblici che non hanno orario di servizio lavorano 10 ore e a fine mese percepiscono quello stipendio, pagano i contributi e prendono quel tipo di pensione. Lui invece che cosa dice? Dice: io ho fatto 30 anni da deputato, contemporaneamente 20 anni alla Regione Sicilia, contemporaneamente 12 anni da sindaco, il che vuol dire che è vero che ha fatto tanti versamenti, però è pur vero che come si è guadagnato 3 mega stipendi, cioè è come se lo stesso giorno, per banalizzare, un lunedì, lui avesse lavorato 3 ore per ognuno di questi settori, o il lunedì, quindi lui è pagato per uno stipendio intero a fine mese, per 3 stipendi interi, quando la sua attività è stata diversificata. No, però scusi Giuseppe, lui dice: io ho 60 anni, ho versato contributi alla regione siciliana e poi al Parlamento italiano. Io sì, non so, forse sarebbe stato interessante andare a vedere, non ho avuto tempo, se le due cose sono avvenute in contemporanea non credo che sia possibile, magari in altri periodi è stato possibile, comunque in ogni caso ho versato contributi lì, contributi di là, poi adesso siccome mi dimetto da deputato mi devono pagare anche come sindaco, dunque in realtà non ci sono tre stipendi, è così una invenzione tra virgolette giornalistica, ci sono tre entrate, diciamo, che sono il vitalizio da parlamentare, vitalizio da deputato regionale, e poi adesso lo stipendio da sindaco in realtà leggermente tagliato, di questo, è giusto, ma non è tre stipendi, non è uno stipendio il vitalizio, non è uno stipendio, per cui si insomma, chiama vitalizio, ma insomma ho capito, ma non è che prende tre stipendi, cioè prende il vitalizio per aver versato, secondo me è esagerato, un vitalizio esagerato sia da parlamentare che da deputato regionale, dopodiché viene pagato come sindaco, come è giusto che sia, non essendo più deputato. So ma che infatti, è complicato, però è così. A me la cosa che fa più arrabbiare è quando questi signori simpatici, anche il sindaco, argomentano dicendo: ma è la legge che lo prevede. Beh no, ma io chiedo, certo, chi è il legislatore? Sono loro, no? Ma siete voi, amico mio, cioè la regione Sicilia, se si attribuisce quegli stipendi non è perché è stato il signore Bubù che l'ha deciso, ma da no, fuori. Tra l'altro lui dice Bubù l'ha deciso, non è Bubù, siete voi che dicono è il legislatore sembra un moloch, no? Sembra lui dice: che cazzo è il legislatore? No, il legislatore sono non loro. È Bubù, sono loro. Non è, dillo anche tu, il legislatore non è Bubù. Il legislatore non è Bubù. Oh, questo è il punto. Ed ecco noi uno che in Sicilia ci ha lavorato. Oliviero Toscani, buonasera. Buonasera, chi ha lavorato? Ha provato a lavorare col signor Sgarbi. Con il signor Sgarbi. No, con Sgarbi. Il Sgarbi ha la coitus interruptus, non riesce a concludere niente. Ma come no? Sta lì a combattere sempre come sindaco. No, dove che combatta? Chiacchiera Sgarbi, non conclude niente. Chiacchiere e basta. Molto importante chiacchierare, però alla fine bisognerebbe anche concludere un po'. Cioè, scusa, forse sei d'accordo con me, Sgarbi è in eterno priapismo dialettico. Sì, proprio non riesce a fermarsi, lui parla coitus interruptus. Io sono curioso di sapere se a Oliviero Toscani piace o no Monti, la serietà, quella che viene chiamata la sobrietà di Monti. Allora, io penso che se Monti è così bravo come antipatico non ci saranno problemi. Cioè, perché è molto antipatico, dice. No, antipatico nel senso poco non so, poco espansivo, diciamo, ogni tanto ci fa rimpiangere persino Berlusconi, insomma, proprio questo qua non fa proprio nessuna cazzata. Ma insomma, quindi va benissimo. Speriamo che non ne faccia. Perché ogni tanto fa rimpiangere Berlusconi? Perché appunto è sempre così serio che non fa ridere nessuno, mai. Ma questo qua è una cosa positiva? Sì, molto. Ci voleva. Cioè, la vera differenza, ce ne sono tantissime, tra il governo Monti e quello Berlusconi, qual è secondo Toscano? No, che noi passiamo dalla brace, sempre estremi, non abbiamo niente, una cosa normale, di mezzo qualcuno che sia un grandissimo impiegato. Mia moglie è norvegese, lei non sa chi siano i ministri. Quando dico: ma chi è il ministro dei trasporti norvegese? Boh, non lo so, ma una persona seria di sicuro, perché prima di tutto non va in televisione, non so chi sia, è un grande impiegato, pagato poco in realtà in rapporto agli altri professionisti norvegesi, e per quello che la Norvegia è un paese ricco e funziona. Perché i politici noi abbiamo dei buffoni pagati tanto che non servono a niente. Ma questi nuovi ministri vanno troppo in televisione pure loro, cominciano anche loro a avere questo difetto italiota ad andare a fare i teleidioti. Beh, questo è vero, però, quello che dice Toscani, Parenzo. Quello che dice Toscani è vero, perché effettivamente, l'ho detto all'inizio della trasmissione, questi ministri tecnici che cominciano ad andare in è un vizio del paese dei teleidioti, come siamo noi. Toscani, ma dipende, dipende cosa vai a fare in televisione. Una democrazia prevede che il potere venga messo. Non si va, già in radio è già troppo. Ma i ministri non dovrebbero andare su, dovrebbero andare molto ma poco. Dovrebbero essere sottoposti al giudizio dei giornalisti, alle domande. Ma perché alle cose, il giudizio dei giornalisti? Perché non il giudizio? Alle domande, alle domande. Facile che uno si rende conto del perché l'Italia non funziona. Ma anche questi ministri nuovi? Ma insomma, ogni tanto mettono. La Fornero che piange, le è piaciuta? Tutti gli esseri umani piangono, dai, non è niente di speciale. niente di... uno piange, niente di speciale, niente di speciale. Ma figurati. Troppa filosofia si è fatta intorno a queste lacrime della Fornero. Tre lacrime, tutti tipico, no? Sembra un paese di mammoni proprio. Una piange, la mamma pianto. Oh Madonna. La commozione... Allora, volevo dare un'idea se era possibile. Come no? Vai, vai. Io, se fossi primo ministro, sì, eliminerei le pensioni a chi ha scelto il proprio lavoro. Cioè? Cioè, uno sceglie di fare il fotografo, ho fatto io, per sì, esempio. Sì, sì. Cruciani, tu non hai scelto di fare giornalista radio? Sì, più o meno. Ecco, tu niente pensione, niente vitalizi, niente, perché dovrai lavorare perché crepi. E c'è da fare, quindi eliminazione delle pensioni di chi ha scelto il proprio lavoro. Vabbè, ma come si fa a distinguere chi ha scelto? Chi... Beh, quelli che sono bravi. Vabbè, ho capito. Cioè, io secondo te non dovrei... C'è povera gente che ha dovuto fare dei mestieri che non ha scelto, obbligati a pulire le strade. Ah, ho capito, cioè, ho capito. Grandi capito. Pensione. Ah, ho capito. Cioè, chi si diverte a lavorare, in sostanza, vuol dire chi è basta l'eliminazione della pensione, avremmo risolto il problema delle pensioni. E invece chi è stato perché no, diamo le pensioni, super pensioni ai privilegiati che hanno potuto studiare, hanno avuto il privilegio di aver tutto in più, anche le pensioni, un grande sbaglio. Beh, non è una cosa del tutto bellissima, sbagliata questa di Toscani. Cioè, chi bellissima ha studiato, ha lavorato, ha guadagnato un sacco di soldi, anche di super pensioni, famiglia ricca, anche la pensione del PDR, calcio del culo, altro che pensione. Traffico, ci sentiamo tra un attimo, sempre con Oliviero Toscani per la volata finale della Zanzara. Bene, 20:47, abbiamo in collegamento sempre Davide Parenzo da Roma, Oliviero Toscani non so da dove, ma è molto trafelato. Sono in montagna, sono in un posto altissimo in Val Gardena, sto facendo delle fotografie ai vecchi campioni di sci. Collegamento speciale con Via Bellerio qua a Milano, Umberto Bossi, buonasera. Non è possibile. Come no, Bossi, buonasera. Abbiamo fatto il federalismo fiscale. Volevo dire che siamo qui in Padania, siamo rimasti sconcertati da quelle porcherie di campagna che aveva fatto quel signore che si chiama Toscani, che deve andare a stare in Toscana, deve andare via dal nord, non c'entra niente con noi. Bossi, io so che lei è figlio di portinaia, che lei dormiva sempre prima della luna del pomeriggio, ma sua mamma diceva lei ha rovinato l'Italia con quelle sue porcherie, ha fatto passare le sue se lei dice questo veramente, allora io ho tutte le ragioni, perché lei, scusi, da che foresta sta uscendo, scusi? Adesso le mandiamo Calderoni e la Guardia Padana a prendere Toscani, via dall'Italia, Toscani, torna lì, torna nel tuo... Bossi, tsunami lami, ma che cazzo, lei è un milanese arioso, lo si vede, poveretto. Non neanche parlare in milanese, io non ho capito perché dobbiamo pagare un fotografo, viene a fotografare la Padana, anziché fare il fotografo, fotografo come lei è un fotografo con due T. Ma perché un fotografo? Scusi Toscani, perché un fotografo? Ha fottuto l'Italia, cazzo! Scusate. Ah, uno che ha fottuto l'Italia. Ha fottuto l'Italia. Adesso stiamo facendo la secessione al nord con la nuova moneta. E la gente la nuova moneta. La mandiamo la cassa. Non sapete neanche leggere e scrivere, ma che moneta volete fare? Mamma del nord. Per sapere fare una moneta bisogna saper scrivere, Bossi. Sì, ma voglio con quel Toscano, perché lo invito a parlare già con la Marcegaglia, non dovete più invitare quel Toscano lì. Oliviero, nome di merda, Oliviero. Perché nome di merda? Scusi, senatore, perché nome di merda Oliviero? È un nome del sud, al nord si chiama tutti Mario, Umberto, nome del nord. Scusi, per curiosità, Bossi, mi scusi un attimo, ma questa storia della moneta padana è vera oppure no? Qui c'è Toscani che sta scatarrando praticamente. Non sanno fare una moneta, non sanno scrivere. Allora, la cosa della moneta è una cosa molto, molto seria. Solo uno che fa le foto con i preti che baciano i rabbini può tenerla proprio seria. Il signor Toscani, Olivia, che contributo ha dato all'Italia, quel signore di Toscani. Vabbè, un grande fotografo, ha fatto un sacco. Ma mi fotografo in Instagram da amiche, fotografo di vai, Toscani, Olivia, che dire a quei soldi del nord. Con i soldi del nord, perché i soldi del nord? Che c'entra i soldi? Cioè, i soldi del nord, dobbiamo pagare le campagne, si fa pagare le campagne fotografiche dei politici, dai politici. Ma non è vero, qua sono, alla fine sono veramente dei bugiardi. Sì, ma perché dei politici? Non ha mai stato pagato da un politico. Lo volevano candidare i radicali, cosa scarico, i radicali. Sì, vabbè, che male c'è, scusi, okay. che male c'è? Ma me ne frega niente quello che ha fatto Scalia, non esiste Scalia, esiste il nord, esiste la Pagani. Fra un radicale e un leghista, scusa, Bossi, dai. Qual è la differenza? Ma ritorni nella foresta. Ritornare nella foresta. È maleducato, se fa il creativo. Nella foresta. Il creativo. Beh, maleducato che lei dica maleducato a Toscani con tutti i gestacci che ha fatto, le pernacchie negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Io ho modi per far cambiare il paese, perché io parlo per essere. Non si può che voler bene. Perché dice Toscani? Perché come un vecchio zio rimbecillito, insomma, è chiaro, non si può volergli bene. Va bene, grazie Bossi, grazie Bossi. Volevo dire del federalismo. No, la prossima volta, grazie. Solo per dirmi che Padania è vicina, Abbiamo capito, grazie Umberto Bossi. Allora Toscani, non ho capito, ma la Lega pare che sia tornata all'antico, ha grande voglia di combattere, parole dure, molto forti. Partito, è una diarrea. Come no, Toscani? Sì, non è un partito, ma non è un partito. Ma che vuol dire? È l'unica opposizione che è rimasta, l'unica opposizione che c'è al governo Monti. Appunto, è una diarrea, è l'unico mal di pancia che è rimasto. Dio santo. Come l'unico mal di pancia che è rimasto? Sì, ma quello. Ma ragazzi, siamo nel 2012. Stiamo parlando d'Europa. Io vergogno a raccontare ai miei nipotini che c'è la Lega. Addirittura? Sì, no. vergogna. Addirittura, no. Sì, vergogna. Ma si oppongono. Ragazzi, io vergogno a raccontare che c'è un partito greghista. Ognuno si vergogna per quello che si vuole vergognare, assolutamente. Appunto. Parenzo, che vuoi chiedere a Toscani? Per esempio, se è stato contento della dipartita di Berlusconi, ormai è passato un mese, avrà anche metabolizzato Toscani. Ma no? Sì, intanto volevo anche un giudizio sulla nuova campagna che ha fatto la Benetton, dove lui ha lavorato per molto tempo, no? Che poi è stata questa campagna fotografica. Sì, ma non è una campagna, è un giocherellino di un'agenzia di pubblicità di provincia. Io mi domando come mai la Benetton faccia una roba. Perché si domanda? Un trucchetto da Photoshop che ormai lo fanno tutti, insomma. Vabbè, però ha avuto successo lo stesso, Toscani. Sì, ma no, ci sono tante cagate che hanno successo, insomma. Vabbè, adesso perché non l'ha fatta lei? Perché non l'ha fatta lei? Ha fatto più pubblicità delle mie foto, quindi è fantastico avere pubblicità senza aver fatto niente. Capito Parenzo? Parenzo, Toscani, ovviamente su questo forse ha ragione, ma volevo anche un giudizio sulla questione di Monti. Cioè, lei andrebbe in vacanza con Monti a Natale? Ma io devo dire che Monti è una persona fredda, è proprio con l'ode, il classico lombardo, non è veramente simpatico nel modo banale della parola. Passera? No, parliamo di Monti, dai, Passera è meno carismatico, insomma, mentre Monti ha un carisma. Monti ha un carisma. Però dei due quello che vuole fare politica in futuro è Passera, lei lo sa, no? L'ha sempre fatto, insomma, dai. In che senso l'ha sempre fatto? Insomma, Passera è sempre stato uno sveglio così. Uno in mezzo a molte sì, storie. Sa tante cose, sì. Io poi non me ne intendo tanto. No. Dovrei solamente eliminare le pensioni perché ho scelto il proprio lavoro. Mi piace questa idea. La proposta di Toscani. Chi sceglie il proprio lavoro non va vale. Esatto, giusto. No? Io morirò lavorando. Sono felice del lavoro che faccio. Ma lei l'ha fatta una pensione privata? L'ha fatta lei? No, ma che figura. Ma io quando ho il minimissimo, con tutte le tasse che ho pagato lì da me, ho il minimissimo. E vabbè. Quindi devo continuare a lavorare, sono felice. Vabbè, in mezzo ai monti, Olivero Toscani, che ringrazio, un abbraccio, a presto. Grazie a voi, ciao a tutti, buone feste, buon Natale, buon tutto e buon Monti. Io sono Monti, è tifoso di Monti Toscani, tifoso di Monti mi sembra. Vabbè, Parenzo? Eccomi! Eccoci qui. Aspetta che sono alla bellissima cena della Peppe, gli auguri. Va bene, Francesco da Venezia, concludiamo con Francesco da Venezia. Tu sei tutte cene stasera, feste, sembra che ti diverti dalla mattina alla sera, comunque vabbè. Ma se ti piace così, va bene, Francesco da Venezia. Buonasera. Buonasera, signor Francesco, dica. Allora, permettetemi un appellativo benevolo innanzitutto. A chi? Per voi due, sì. Coppia fantastica. Allora, il testone e il giullare. Testone chi sarebbe? Il testone è il giullare, no? Vabbè, chi è il testone e chi è il giullare, scusi? Vabbè, il testone, visto quella capoccia che si porta dietro, quindi... Vabbè, il testone, adesso non esageri. C'è una stronata al posto della testa. Quindi. Ma c'è una testa normale, di che sta parlando, Francesco? Una testa Beh, insomma, lo ci vede anche dalla sua capacità, dalle sue bravure. Insomma. No, vabbè, ma lei parla non della dimensione della testa, parla del... Anche della dimensione. Anche della dimensione. Invece il giullare sarebbe il signor Parenzo. È giullare quello che fa la parte e la controparte, quello che fa... Però Francesco, purtroppo lo dobbiamo richiamare domani. Lei è molto bravo, molto sveglio, molto simpatico. Ci sentiamo domani 18:30, se no mi uccidono. Ciao. Dillo anche tu, il legislatore non è Bubù. Il legislatore non è Bubù. Oh, questo è il punto. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La zanzara.